puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Bimba, se sapessi che monotonia, tutte quelle palle sulla fantasia, guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrastenia. I giovani devono abituarsi all'idea che non avranno un posto fisso per tutta la vita. Del resto, diciamo la verità, che monotonia un posto fisso per tutta la vita. È più bello cambiare, avere delle sfide, purché siano in condizioni accettabili. Qual è lo scandalo di questa straordinaria, bellissima frase pronunciata da Monti ieri sera? Gli ascoltatori della Zanzara sanno che io sono stato critico più volte nei confronti soprattutto della nascita del governo Monti, il modo in cui è nata, avrei preferito le elezioni politiche come in Spagna, eccetera. Dopodiché, siccome non ho il prosciutto sugli occhi, siccome non ho i paraocchi, guardo le cose per come avvengono, guardo soprattutto quello che fa il governo e quello che dice il suo più alto rappresentante, in questo caso il premier Monti. Ebbene, ha detto una frase rivoluzionaria, una questione di mentalità, deve cambiare la mentalità. Non è che ha detto che deve scomparire il posto fisso, ha detto che bisogna abituarsi. Tiriamo avanti questo show, ho forte mal di testa, furia di isolarmi con un tuffo nel tuo cuore. Eppure è stato massacrato, zitto, stai zitto, è stato massacrato. Massacrato da tutti, dalla sinistra, dal centrodestra, un po' meno dal centrodestra. Sallusti, il tuo amico Sallusti, massacrato dal buon senso. Ma stai zitto. Una frase assolutamente ma cosa? Ma quale ingiustificata? Ma che dici? Sei peggio della Camusso, sei. Senti Sallusto. Sallusto. Mi interessano le cose che vengono dette. Faccia le riforme e non dia giudizi morali. Ma quali giudizi morali? Ma di che parli? Stai delirando. Giovani si devono comportare. Faccia il premier. Sei al delirio. Sallusti, applauso a Monti. Precari che. E me che c'entra? Ci sono precari che non io non voglio sentire questa parola, precari, non la voglio sentire. Ma non esistono. Gente che lavora e gente che non lavora. Esistono persone che cambiano lavoro quando gli va bene, sì. Ogni mese, ogni quattro mesi, poi rimangono senza lavorare. Che tristezza. E non è che si annoiano. Che tristezza. Non è che lo fanno come i grandi manager che dopo un po' si annoiano. Sei triste. No? In questa fase, le cose si fanno, ma non si danno. Sei triste. Frasi buttate lì così. Cioè, Monti e Rock, tu sei di una tristezza infinita. Monti e Rock. Di una tristezza infinita. Monti e Rock, quello è lento. Sei Celentano. Ma quella non era male. Non è che anche su Celentano non ho i paraocchi. Non è che ho i paraocchi su Celentano. Ha detto il ragazzo della via di via Montesanto, anziché della via Monterosa. Il ragazzo di via Monterosa, sì, Il ragazzo di via Monterosa, Giuseppe Cruciani. Sallusti, applauso a Monti. Se lo diceva Berlusconi, veniva crocifisso. Il problema è che non vedi che io sono sempre in disaccordo con Sallusti senza saperlo, vedi? In realtà una volta lo disse l'8 aprile del 2008, poi sentiremo più avanti, molto più avanti. Sì. E la cosa che fa una certa impressione è che se queste cose l'avessero dette Berlusconi o qualcuno del governo Berlusconi l'avrebbero impiccato. Invece qui ci si limita a dei pizzicotti, come fa adesso Pidellaro. In realtà questo governo non va né impiccato né pizzicottato. Va applaudito perché finalmente dice le cose come sono e finalmente qualcuno in questo paese può permettersi di dire le cose come sono senza essere crocifisso. Beh, finalmente, cioè, prima non accadeva allora, prima non accadeva perché Berlusconi in realtà di queste vicende poi non è che fosse granché interessato, Camusso, in molti vorrebbero annoiarsi. Beh, certo, nel mondo ideale, nel mondo dei soviet, non attribuisco questa cosa alla Camusso, ma nel mondo ideale di chi immagina che per tutti ci sia il posto fisso, beh sì, certo, questo è un mondo ideale inesistente, inesistente però. In questo momento in Italia ci sarebbero tantissime persone che sarebbero felici di annoiarsi. e che ce n'è purtroppo moltissime che non si possono annoiare perché stanno disperatamente cercando un posto di lavoro. E forse più che usare delle battute bisognerebbe provare ad indicare a loro qual è la strada che il paese intende intraprendere per dargli una risposta. All'improvviso oggi una certa sinistra anche nel Partito Democratico si rende conto che il governo Monti forse è un governo, non dico conservatore per non utilizzare vecchi stereotipi, però un governo che certo non è nella direzione delle politiche auspicate da una parte consistente del Partito Democratico, non solo su questo tema dei contratti a tempo indeterminato, ma anche sul tema della giustizia, per esempio, no? Anche sul tema della giustizia, per quello che è accaduto oggi alla Camera, ne parleremo più avanti. Certo. Ma anche per alcune frasi pronunciate ieri da Monti a Matrix. È vero che era ospite di Mediaset e anche del TG5, però su Berlusconi, senti questa cosa: se mi sono avvicinato alla politica è per merito di Berlusconi. Poi sa, se io mi sono avvicinato alla cosa pubblica, sia pure sul piano europeo, è perché nel 1994 il presidente del Consiglio Berlusconi, appena diventato tale, mi ha chiesto se volevo andare a fare il commissario europeo. Guarda, ti leggo e vi leggo Non ha svelato un segreto di classe. No, cioè. Però ti leggo questi due messaggi che sono tutti e due abbastanza significativi. Il primo è questo: ho 52 anni, sono di sinistra ma sono d'accordo con Monti. E un altro: Cruciani, le auguro fame e disoccupazione. Questo è straordinario, voglio abbracciare la persona che l'ha mandato. Che l'ha al mandato. Di là di queste uscite forti. Però Tremonti, la grande differenza, il grande cambiamento di passo è questo. Tremonti, 2009, 19 ottobre, il posto fisso, base per la famiglia, la mobilità non è un valore. Ma la vedete la differenza o no? Beh, ma certo, la contraddizione era di Monti. Fai silenzio un attimo. Non credo, e l'ho sempre pensato e scritto, non credo che la mobilità sia di per sé un valore. Credo che per strutture sociali come le nostre e storiche, il posto fisso è la base su cui organizzi il tuo progetto di vita e su cui fai la famiglia. La variabilità del posto di lavoro, la incertezza, la mutabilità, la precarietà, per alcuni sono un valore in sé, per me onestamente no. Oh, l'amico Tommaso Labate del Riformista mi scrive: se hai una vita monotona la banca ti dà il mutuo, se non ce l'hai oltre al posto fisso niente casa fissa. E ha perfettamente ragione, ma naturalmente questo non significa che non bisogna cambiare poi tutta quanta la struttura della società. Ma guarda che il problema non è questo, tu hai una bilica. Un attimo che abbiamo un ospite, perché devi cominciare subito? Abbiamo 2 ore e mezza per discutere, no, un attimo solo. No, ma io dico solo una cosa. No, ma non la dire, dilla dopo. No, diciamola dopo. Lo sapevi che esiste un sosia di Scilipoti? Beh, ma ne bastava un Danny DeVito. No, ma che c'entra Danny DeVito? Quello è, diciamo, a sua insaputa è sosia di Scilipoti. Sì, sì. Però, no, c'è uno che lui si porta dietro e che ogni tanto, a cui ogni tanto fa fare delle comparsate. Ti giuro, veramente? È così. Sì, esiste. Pare. Poi sempre, queste cose sono sempre. Senti, intervistato da Scarrone, TG3. Scusi, ma lei chi è il sosia di Scilipoti? E così dicono. Perché viene da Concilipoti? Ma perché gli hanno tolto la scorta, allora lui a volte usciamo e io faccio alcune mansioni. Ma lei è un poliziotto, no? No, assolutamente. Tiriamo avanti questo show. Lo sapevi che 26 politici alla fine sono usciti fuori i nomi, no? 26 politici, poi lo troviamo nel corso della trasmissione del sosia di Scilipoti, eh? Questo è un genio. 26 politici hanno presentato un ricorso alla Camera contro i tagli dei vitalizi, insomma contro la riforma dei vitalizi? Lo sapevi, ho no? Naturalmente. Sono usciti fuori i nomi, alcuni li conoscevamo già. Uno è tra noi, lo abbracciamo fortissimo, lo ringraziamo di essere qui a fare la sua battaglia, a dire come la pensa. Certo. Oreste Rossi, Lega Nord, europarlamentare da Alessandria. Buonasera. Buonasera, in realtà sono atterrato da pochissimo da Bruxelles, dove ci siamo anche già incontrati. Sì, come no, certo. Anche non parliamo di cose fatte, reali, ma parliamo di questioni di gossip. E che come gossip? Parliamo di gossip. Come gossip? Parliamo di quattrini, altro che di gossip. Perché di gossip, lei dice? Parliamo di democrazia, è una cosa diversa. In che senso di democrazia? Scusi. Io dico subito, nella mia situazione, e cioè che erano deputati con meno di 30 anni nel 92, siamo in 7. Sì, ma lei quante legislature ha fatto? 3 legislature, mi sembra, no? Io ho fatto 3 legislature. Parliamo di quella del 92, quella che ha i tagli forti. Nelle mie condizioni siamo in 7. Sì, ma qual è il problema? Allora, scusi, io, quando ho finito nel 2000, anzi mi sono dimesso, sì, ho ricevuto una proposta protocollata della Camera dei Deputati e se volete sì, mi invitate a un'altra trasmissione, magari anche a Bruxelles, così ve la faccio vedere, sì, che mi proponevano come una cassa privata o come un'assicurazione privata. Mi dicevano, caro onorevole, anzi gentile onorevole, sì, se lei versa 144 rate sì, per 12 anni sì, di un determinato importo, fino ai 50 anni, fino ai 50 anni, lei a 50 anni avrà diritto al vitalizio. E vabbè, quello è normale perché c'era la... volontario. Scusi un attimo, Rossi, versate. Rossi, si fermi un attimo. Questo qua è abbastanza normale. 144 rate. No, però mi scusi un attimo, Rossi, si fermi un secondo. Allora, lei ha versato 144 rate, se non sbaglio. Quante ne ha versate di rate? 144. Ho finito di pagare novembre 2011. Sì. A dicembre 2011 mi dicono abbiamo scherzato, lei il vitalizio per 10 anni non lo prenderà. Vabbè, ma qual è il problema? Lei non è che ha perso quei soldi lì, il vitalizio lo avrà a 60 anni. Bravissimo, 10 anni dopo. E allora... io mi chiedo. Sì. No, io chiedo a lei. Sì. Se avesse fatto l'assicurazione privata come ho fatto io con la Camera dei Deputati, lei la faceva con Inas Italia o con la RAS, se preferisce, va sì, bene? Sì. Pagava 12 anni sì, di rate sì, per molte decine di migliaia di euro, e ci mancherebbe altro, poi non importa, non importa, comunque pagava quello che le avevano chiesto a contratto. Allora? Allo scadere del contratto gli dicevano, lei quello che abbiamo concordato non ne ha più diritto. Sì. Lei sta diceva niente? Almeno le chiedeva indietro i soldi, almeno, perfetto. No, non è che ha detto... Ma cosa dice? Scusi un attimo, Rossi, il problema è uno. Voi avete fatto un accordo, lei ha fatto un accordo con la Camera, con la banca che si occupa... Io ho scritto un contratto con la Camera dei Deputati. Sì, d'accordo, però non è che c'è scritto che le condizioni per accedere al vitalizio sono immodificabili, non c'è scritto da nessuna parte questa cosa. Io, se vuole le dico, io non posso farglielo vedere così, se vuole ci vediamo a Bruxelles, tanto venite su spesso e volentieri, io sono sempre suo, 100% di presenza. E dunque? Le porto a vedere il contratto fatto con la Camera dei Deputati, dove c'è scritto che a fronte del pagamento di queste sì, 144 sì, rate, io avevo la garantito sì, il diritto al versamento del vitalizio a 50 anni. Però a mi casa mia in italiano quando c'è scritto garantito è garantito. No, ma voglio dire, certo che lei ha, certo che lei ha la garanzia, no, che a dopo 50 anni. Ma no, ma è chiaro perché si fa riferimento a una normativa che dopo è cambiata, Rossi, non è che c'è scritto allora che no. Mi scusi. Vabbè, quello io sarà oggetto, quello scusi un attimo, Rossi, quello sarà oggetto del vostro ricorso, adesso non ci addentriamo nel merito, lei ci sta dicendo, io ho programmato la mia vita, giusto? Ho programmato la mia vita sul fatto che a 50 anni avrei avuto, quanto avrebbe avuto di... Magari io non ce l'ho nemmeno, io onestamente, se rimarrò, se mi manderanno ancora al Parlamento Europeo, comunque non lo percepisco. Sì, ma ho capito, ma quanti soldi avrebbe avuto lei? Quanti soldi avrebbe avuto a 50 anni? 4.000 euro, no. 50 anni se non fossi eletto, attenzione, Sì, se no, beh, certo, se era uscito fuori, quanto? Questo va specificato, 4.000 euro. 4.000 euro netti? Sì. Siamo qui con uno dei 26 che ha fatto ricorso contro i tagli, cosiddetti tagli ai vitalizi. Si tratta dell'europarlamentare Alessandrino della Lega Nord, Oreste Rossi, il quale avrebbe preso a 50 anni, naturalmente se fosse uscito dalla carriera politica, 4.000 e rotti euro netti, e che invece deve aspettare altri 10 anni. Ora io, però francamente, Rossi, io le chiedo... Non piango. Le chiedo in maniera... Non piango e neanche si vergogna, tra l'altro, cioè sono felice che sia venuto qui da noi a raccontarci questa sua rimostranza, ma in un momento come questo non è che l'avete chiamato Parlamento... voi, non sono venuto io. Sì, ma certo che l'abbiamo chiamata noi. Certo, e la ringraziamo perché ci mette la faccia e la voce, anzi, ma in questo momento, guarda che non si vergogna, in un momento come questo di star qui a fare, come si dice in Veneto, il peocioso, 4.000 euro, non posso aspettare 10 anni per una questione che... Perché riguarda... non vuole aspettare 10 anni, Rossi? Perché? Allora, in un momento come questo? Perché questa norma danneggia, parliamo legislatura 92, che è quella che interessa a me. Danneggia? Allora, parliamo di legislatura 1900, sì, del 1992. Ma chi danneggia? Danneggia con questo spostamento di 10 anni, sì, meno di 10 parlamentari. E vabbè, pazienza, è meglio se danneggia poche persone, meglio. Cioè, sì, perché deve togliere tutto a 10 anziché 900 rotti che erano parlamentari allora. No, però mi scusi, Rossi, ma non toglie niente a voi. Perché lei si sente, privato di qualcosa? Semplicemente prende. Non capisco perché devono intervenire solo per motivi di immagine su 7-8 che siamo in queste condizioni 92. E non intervengono, legislatura 92, e non intervengono invece sui 900 rotti. Se loro avessero ridotto del 10%, 10%, 15%, sì, 20%, sì, ma ho capito. Conto di cosa stiamo parlando? Però scusi, per 3.000 parlamentari che oggi ne godono, sì, lo riducevano ovviamente anche a noi, ma lo riducevano a tutti. Però scusi, Rossi, mi sembra una battaglia di retroguardia, francamente. Cioè, il fatto che lei dice siamo solo 9, devono colpire tutti quanti, posso anche essere d'accordo. Certo. Dopodiché, ma che lo fa fare sto ricorso? Si prenda sta pensione quando sarà? Fra 10 anni, punto e basta, come tutti gli italiani, peraltro a 60 voi. Gli italiani vanno sempre più avanti, 65, forse 70. Se lei avesse pagato con un'assicurazione privata, con un contratto sottoscritto, 144 rate per 12 anni a fronte di un contratto. Ma okay, non è la stessa cosa, sono. Ma non è la stessa cosa. Se lei avesse detto. Ma quello è lo Stato. Questo contratto non lo. Ma anche tutti i dipendenti dello Stato hanno la pensione dello Stato. E cosa c'entra? Tutti i dipendenti pubblici hanno una pensione dello Stato. Ma infatti, quando cambiano le norme. Ma quando cambiano le norme adesso e mandano la gente in pensione più avanti, non è che la gente fa ricorso. Sto dicendo che sono contrario a ledere dei diritti acquisiti. Sono d'accordo a un sacrificio uguale per tutti, quindi tutti i parlamentari in carica, non in carica, che hanno il vitalizio o che l'avranno, si devono vedere, tra virgolette, ridurre l'importo tutti allo stesso modo, non solo quelli che all'epoca avevano meno di 30 anni. Lei dice mi hanno fatto un furto? No, hanno fatto un'operazione scorretta per vendere che facevano una grande operazione. In realtà lei faccia il conto. No, però mi scusi, lei come si sente? Lasci perdere la cosa generale, la questione generale. Mi hanno fatto un furto, lei come se la sente questa cosa? Su cosa aveva contato su questi soldi? La reversibilità, aveva organizzato la sua vita? Sono questioni mie, io ho sottoscritto un contratto, deve essere rispettato. Cambia le regole, cambiano per l'intera categoria. C'è una classe particolarmente privilegiata che è quella dei parlamentari? Sì. C'è una casta? Sì. La colpiamo tutti allo stesso modo. Tutti i parlamentari che hanno diritto al vitalizio vengono danneggiati o vengono ridotti i vitalizi o vengono diminuiti, chiamatelo come volete, di X. Ma no, ma in realtà qualcosa cambia per tutti comunque. Il 100%, agli altri. Ma perché il 100%? Lei deve aspettare 10 anni, ma qual è il problema? Mi dice qual è il suo problema? Mi dice qual è oggi. Questi 10 anni lei non mangia. Questi 10 anni, che problemi ha? Se non ha quei soldi non mangia. E che non possono, per pulirsi la faccia coi giornali che abboccano, dire che togliere per 10 anni il vitalizio a 7 deputati. Parliamo del 1900. Ma la riforma non è solo questa, non è solo questa. 915 è ridicolo, perché se loro avessero tolto. Sì, va bene, ma questo l'abbiamo già detto, Rossi, però mi scusi un attimo, io voglio capire, perché poi le questioni sono anche personali ed è giusto anche dirle. Mi spiega cosa cambia nella sua vita, concretamente, se lei prende il vitalizio tra 10 anni, cosa cambia? A me niente, assolutamente niente. Beh, no, lei mi ha detto, scusi. Ci sono delle regole che devono essere. Vabbè, ma lasciamo perdere, lei ha detto ai miei assistenti una cosa, che aveva fatto conto su questi soldi per suo figlio, che peraltro è molto piccolo. No, vede che non ha capito il suo assistente, mi dispiace, vada a sentirsi la telefonata che tanto l'avete sicuramente registrata. No, non abbiamo registrato nulla. Non è diverso, questa è un'altra questione. Attenzione, allora, se un deputato muore, paga la reversibilità e ne ha diritto. Attenzione, lo può fare per la moglie e per i figli. E allora? Attenzione, per i figli vale ad esempio fino a 18 anni. Sì. Nel caso di morte, stessa cosa dell'assicurazione. Io faccio l'assicurazione, allora, incredibile. Se muoio mi danno Y. E allora? Perfetto? Sì. Spostandole di 10 anni, io ho pagato, ad esempio, per la reversibilità dei miei due figli, che avevano già 18 anni. Quindi ho pagato per la reversibilità, che quando io avrò 60 anni, anche dovessi morire, ormai loro non hanno più diritto. Speriamo quindi di no. Perché? Ma anch'io spero di no. Ma quando uno fa un'assicurazione sulla vita, lo fa perché dice: se mi capita la disgrazia, faccio un incidente in auto, muoio, una parte, che poi le dico anche quant'è, circa il 50% della pensione, poteva essere fatta la reversibilità. È costato diverso. E dunque in questo caso il danno quale sarebbe stato? Il danno sarebbe stato che mi hanno fatto pagare una assicurazione, chiamiamola così, sulla reversibilità. Fatto un contratto, come lo chiamiamo, perché è un contratto con la Camera dei Deputati per dare la mia pensione in caso di morte ai miei figli fino a 18 anni di età, che di fatto non esiste, perché io a 60 anni i miei figli avranno 18 anni, quindi mi hanno fatto pagare anche un qualcosa che Rossi, ma sono quisquili e sono bruscolini rispetto a quello che succede in Italia. Si rende conto o no che fare un ricorso su queste cose qui è una cosa? Allora, mi rendo conto che noi, prima di fare ricorso, abbiamo chiesto ai questori della Camera, io ho chiesto Camera e agli uffici, non faccio i nomi e cognomi, perché non mi pare neanche corretto, gli ho detto: non fate un'operazione del genere che è scorretta su poche persone, fate una riduzione X dei vitalizi, volete farla del 5, la fate del 20, mi va bene, ve la sottoscrivo, ma che sia per tutti. Non esiste il problema, ma deve essere per tutti. Incredibile. No, ma scusi un attimo, io non capisco qual è, al di là di questa questione della reversibilità per i figli, non capisco perché lei non può attendere 10 anni come tutti gli italiani per prendere questa dannata pensione vitalizio che per me andrebbe cancellato. Perché io devo aspettare 10 anni, magari, ripeto, magari non l'avrei neanche presa. Deve aspettare 10 anni? Io magari devo aspettare 10 anni, finisce la legislatura, prende il vitalizio il giorno dopo. Ma che c'entra? Sempre a 60 anni lo prende? Mica a 50? Sempre ai 60 anni lui finisce il vitalizio, finisce la legislatura, prende il vitalizio. Le sto dicendo, sono contro, diciamo che i giovani devono far politica e noi facciamo una norma che danneggia solo i giovani che erano in politica all'epoca. No, però mi scusi. Ma no, è una cambia il sistema. Le regole. Allora, io sono per applicare le regole a tutti. Scusi, ma mi spiega una cosa, perché? Per applicarlo solo a coloro che avevano meno di 30 anni nel 92 è una vostra opinione. Io ritengo che si doveva applicare a tutti, io ritengo che sia effettivamente da ritoccare al ribasso il vitalizio di tutti. Di 3.400 che lo percepiscono, e qual è il mio pensiero? Sono libero di avere un pensiero? Voi certo, no, ma per carità, no. Io dico che andare per tribunali, andare per ricorsi interni. Vabbè, ricorsi interni, sì. È un ricorso interno alla Camera. L'alternativa c'è, la ribadisco, applicano una riduzione, quella che vogliono tutti. Che tocchi quindi Fini, che tocchi Bottolo, che li tocchi tutti. Caro Rossi, però adesso mi... io sono d'accordo. Allora, benissimo, siccome questo discorso... Sono d'accordo che venga applicata poche... Va bene, il discorso non per colpa sua naturalmente, ma mi viene un po' a noia. Allora, tra un quarto d'ora, magari con la linea telefonica leggermente migliorata, la richiamiamo per parlare di altre cose un po' più divertenti. Basta con questi ricorsi vitalizi, basta. Ci sentiamo dopo il giornale radio. Eccoci qui, 800 24 00 24. Come va? Come sempre, molto bene, un po' arrabbiato per questa questione della noia, ma avremo modo di discuterne comunque. Della noia cosa dici? La noia del posto fisso, no? Come dice il tuo premier, il nostro premier. E qualcuno dice che noia il senatore a vita, che è un appunto posto fisso anche quello. Vabbè, ma quello, anche quello, ma no? Quello è tutto, è tutto un divertissement, è tutto un gioco sarà intorno a questa parola. Ed è stata è un dramma vero, altro che noia. Mazza, che frase intelligente che hai detto, che frase originale, piena di grandi significati. Per chi da anni vive una situazione terribile, forza, vai che ce la fai, vai, forza. Di disperazione. Ma qui c'è poco da scherzare. Vai. Di la cosa. Vado. Di la cosa banale e demagogica della serata. La noia non è quella del grande Moravia, la noia è l'ozio, è il fatto che vai nello stesso posto. Ma l'hai sentito bene o no quello che ha detto? L'hai sentito bene o no? È a aberrante. Ah, aberrante è quello che ha detto. È aberrante nel contesto italiano, dove cercare il lavoro in questo paese. Ma stai dicendo stai dicendo delle cose inaudite, dramma, che non hanno senso, che non hanno senso. È una questione culturale, perché i giovani sono abituati a vivere nella società liquida, se te piace così. Sì, perché sembra che i giovani siano degli scansafatiche che vogliono stare solo a casa, no, e vogliono il posto caldo, fisso, dove la mattina titoli del TG3. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. PDL e Lega votano insieme, passa la norma sulla responsabilità civile dei magistrati, Bersani inaccettabile, il ministro Severino, il Senato la corregga. Lavoro, la riforma si farà anche senza accordo, dice la Fornero, la Camusso a Monti, non battute ma risposte, le donne le più penalizzate sul lavoro. Un coro di critiche da sinistra per le parole di Monti sulla monotonia del posto fisso, il web insorge, molto più monotona la disoccupazione. Caso Lusi, l'inchiesta si allarga, forse interrogati altri parlamentari PD, Democratici e UDC, una nuova legge sul finanziamento, Casini ospita al TG3. Gelo artico in tutta Italia, la neve sommerge Milano, Torino e Bologna, allerta fino a lunedì, a Roma domani lezioni sospese in attesa della neve. Ferrovie in tilt, notte di passione per i passeggeri di due intercity, oltre 300 convogli cancellati in Piemonte, la Liguria denuncia Trenitalia. Sentenza della Cassazione che fa discutere, per la violenza di gruppo, carcere non più obbligatorio, il giudice potrà disporre misure alternative. Vorrei fare felice la mia nonna, una casettina in periferia, la mogliettina al posto fisso. Vorrei, chissà se ce la farò mai. Viva Monti per quello che ha detto, viva Monti per quello che ha detto tutta la vita, per quello che ha detto tutta la vita, tutta la vita. La torre, peggiore performance di Monti, ha detto una sciocchezza, esponente del Partito Democratico, ma anche Bersani si è espresso, anche altri esponenti del Partito Democratico che non escono fuori dalla sempre dalla stessa logica, sempre dalla stessa logica. Logica. Stai zitto per favore. Stai zitto. Logica. Mi fa piacere che ti faccia godere così. Mi pare di aver capito che questa è stata una delle peggiori performance televisive del Presidente del Consiglio, e lo dico con tutto il rispetto dovuto, ma teorizzare, come mi è parso di capire ieri, che questa nostra società non è dinamica, non garantisce occupazione, non crea sviluppo perché c'è l'articolo 18, perché il posto fisso è noioso, è una sciocchezza. Ovviamente non ha detto questo Monti, mi pare evidente, e se volete ve lo faccio riascoltare così per precisione, perché no, sembra che uno lo ha fatto all'interno di un discorso che riguardava la necessità di abbandonare l'idea di avere un posto fisso per tutta la vita, diceva, per tutta la vita, e diceva anche a certe condizioni, beh certo, ma guarda che non è una cosa contestualizzato in tre ore, contestualizzato in 30 secondi, sentiamo. I giovani devono abituarsi all'idea che non avranno un posto fisso per tutta la vita. Del resto, diciamo la verità, che monotonia un posto fisso per tutta la vita. È più bello cambiare, avere delle sfide, purché siano in condizioni accettabili. Purché siano in condizioni accettabili. Appunto. Ma di che parliamo? Di oggi non è stato così, ma quell'Italia che tu hai difeso, siccome tu hai difeso il modello di precariato che c'è oggi. Ma quale modello di precariato? Ma falla finita. È un modello da superare quello che c'è oggi o no? Per te no, per me sì. Come no? Sì, allora, certo che è da superare, rendendo tutto più flessibile. E no. Allora, non aspirando oggi, a nulla, non aspirando a quello che non può esistere. Ma guarda, tu stai ponendo un falso tema. Vabbè. Non è vero che i giovani vogliono il posto fisso. Vabbè. Ma chi l'ha detto? Mi sono scocciato. Ma quali giovani hai visto, amico mio? Quali giovani hai visto? Mi sono dimenticato. Quali giovani hai baciato, no, hai frequentato? Mi sono dimenticato di mandare una cosa. Mi sono dimenticato di mandare una cosa. Abbiamo sempre un ospite collegato, 800 24 00 24, che è traffico, la certo persa, che è il numero Cariola per chiamarci, e andiamo a sentire Brunetta, no, il quale era omnibus oggi, sì. Brunetta che dice: meglio questo Monti che quello Paludati, è diventato Montiano. Brunetta, sentiamo. Vabbè, anche Brunetta. Posso dire, mi piace troppo più questo Monti e che ogni tanto, come dire, dice delle ovvietà coraggiose, piuttosto che il Monti paludato, ironico, curiale, e che magari piace di più agli ipocriti e che dice però delle cose non utili. Tutto cambia, mentre tutto cambia, caro Oreste Rossi, europarlamentare della Lega Nord di Alessandria, tutto sta cambiando, si spera, e lei mi sta là con questi ricorsi, le carte bollate per il vitalizio dopo 10 anni, Rossi, Rossi, perché? Rossi, guarda, io ho detto, quando volete parlare di cose serie, tutto cambia, tutto cambia, lei sta a fare ricorso, il ricorso per il vitalizio. Si rende conto di cosa sta facendo, Rossi, Oreste? Oreste, io le scateno le erinni di Eschilo, Oreste. Ma lei, Parenzo, ma perché sei Parenzo, così non Parenzo, lei, perché Parenzo, sì. Parenzo, non Parenzo. Devo mandare mio suocero, che è il suo appassionato ascoltatore. Dove ma lei, che viene come lui, è bellunese, lei forse un po' più della bassa, vi potreste prendere veramente bene. Ma io, la questione l'abbiamo spiegata. È stata fatta dalla Cassa Camera Deputati. Ma il mondo cambia a un certo punto, Rossi, si cambia a un certo punto. Fa il burocrate. Un contratto di tipo privatistico di fatto che ho onorato con 144 ma non gliel'hanno tolti questi soldi pagati. Questi soldi più avanti, porti pazienza, è illegittimo. Se vogliono fare dei risparmi lo fanno in modo orizzontale su tutti quelli che hanno il vitalizio. Scusi un attimo, ripeto, sono pronto a sottoscrivere. Va bene, ma ho capito, non ripetiamo le stesse cose. Che venga applicato a tutti i 3.000 errotti parlamentari. Va bene, ho capito. Che oggi godono di vitalizio. Ho capito, lei quei soldi non li perde. Non mi funziona il sistema adottato. Io contesto il metodo che siano stati danneggiati, tra virgolette. Va bene, ho capito. Danneggiati parlamentari. Giovani, no, lei dice sono stato danneggiato. Sono stato ma come fa a dire danneggiato? Oreste, ma perché? Ma perché per l'onore il contratto mi fa, diventare matti? Rossi, ma perché io? Scusi un attimo. 144 rate, sì, ho onorato il contratto, sì. La controparte, perché non lo devo onorare? Ma succede quando cambia una normativa, succede a tutti gli italiani quando vengono mandati in pensione più avanti, ci va pure lei più avanti, non faccia casino, allora, su. Io ho finito di pagare le rate a novembre 2011, vabbè. Quindi in teoria ho finito il ma perché, contratto. Scusi un attimo, perché hanno fatto ricorso solamente? Non sono io che non ho rispettato il contratto. D'accordo, però lasciamo perdere questo argomento. Oddio, sospendiamo perché allunghiamo, vabbè, le facciamo pagare, le va bene. Rossi, 500 rate per 10 anni, va bene, mi hanno detto niente, mi hanno fatto onorare fino all'ultima rata, novembre 2011, a dicembre mi fanno è cambiata a novembre, a dicembre la normativa, no, non si cambiano i contratti sottoscritti, mi dispiace, ma come no, si cambiano sempre, ma chi sta facendo un contratto con Fiat per ma sono i soldi nostri quelli, sono i soldi dello Stato. La paga a rate. Sì, ma ho capito. Non è la stessa cosa. Abbiamo cambiato idea, le diamo la 500. Non è la stessa cosa. Così lo stesso. Non è la stessa cosa. Se lei perfetto. Non è la stessa cosa. Lei sa benissimo che non è la stessa cosa. Se lei pensa di mettere la sua faccia pulita, su questo io non discuto, a capo di una battaglia come questa, in un momento in cui non le tolgono quei soldi, ma gli dicono li prenderai tra 10 anni e parliamo di un sacco di soldi, e lei viene qui a fare questa battaglia, beh, caro Oreste, la spada dell'Alberto Giaggiussano è più moscia di una spugnetta bagnata, è più moscia di una spugna perché bagnata. Sono soprattutto i leghisti che hanno fatto questi ricorsi, non poi sono leghisti, la maggior parte di quelli sono leghisti, semplicemente di quelli che hanno fatto ricorsi, sì, ma lei se lo chiede perché sono leghisti, sono persone che non sono più organiche alla Lega. Organiche alla Lega forse siamo in 3, non di più. Vabbè, senta una cosa, Parenzo, lo sai, ho capito un attimo. Non si ferma, la non c'è Lega, niente da fare. A differenza di altri partiti, ha candidato tanti giovani. Sì, ho capito, A fare leggere tanti giovani. Va bene, Rossi, si fermi un attimo. Lo sai che è di Alessandria, Parenzo, Rossi? Ad Alessandria? Ah, io sono stato ad Alessandria recentemente. Sì. Vicino al centro, adesso non so dove abita Rossi. Sì. C'era un meraviglioso, alcuni amici me l'hanno segnalato, io l'ho visto solo da fuori, un meraviglioso pub gay, bellissimo. Ma veramente? Ad Alessandria, sì, sì. Alessandria. Un pub solo per gay. Le risulta, Rossi? Le risulta questa cosa? Cosa? Non ho sentito. Che c'è un pub per gay ad Alessandria, bellissimo. Non lo sapevo. Un pub solo... La cosa non può minimamente interessare, non sono interessato a quell'argomento, parlano un po' quelli che vogliono, non vedo mica vietato per legge. No. Ma se fosse vicino a casa sua? Me ne potrebbe fregare di meno, me ne potrebbe fregare nel momento in cui mi dovessero dare fastidio. Se mi danno fastidio, ovviamente chiamerei le forze dell'ordine. E perché dovrebbero dare perché dovrebbero dare fastidio i gay, scusi? No, non ci siamo capiti. Eh, qualunque club fosse vicino a casa mia, sì, e mi dovesse dar fastidio, ovviamente perché ci fossero schiamazzi, ci fossero ricchi, le forze dell'ordine le farei intervenire. In il fatto che sia un club di gay o di altro, a me non me ne può fregare di meno se non mi creano dei problemi, questo è ovvio. Vabbè, ma, se mi creano dei problemi, per me che siano gay, etero o altro, cioè, se vede... hanno il loro club, se non certo mi creano problemi facciano un po' quello che cioè, vogliono. Cioè se due si baciano davanti a sotto casa sua, due omosessuali, che ma succede? Ma che me ne frega a me? E che ne so? Così io non lo faccio io, perlomeno, fino ad oggi spero mai, perché non ho quelle tendenze, ma non vedo quale possa essere il problema. No, ma che ne so? Lei avrebbe problemi, scusa. Se, lei, se i suoi figli che sono piccoli vedono in televisione due uomini che si baciano, lei protesta? Ma io già sono un po' troppo piccolo, effettivamente il primo è già in età di capire abbastanza. Io semplicemente gli spiegherei che ci sono tendenze diverse, ognuno è libero nella sua vita e fa delle scelte. Mamma e papà hanno creato una famiglia tra uomo e donna tradizionale, altri pensano di non farlo, ma saranno fattacci loro. Benissimo. Ma quello vuole che me ne frega a me. È perfetto, è perfetto. Non è, non... Spero che anche lei la pensi uguale. Ma io la penso assolutamente. Assolutamente. Io non ho mai avuto problemi con persone di mancherebbe ancora. Assolutamente. Sento un'altra cosa. Non la penso mica come la Cassazione che sentenza che lo stupro di gruppo non è più punibile col carcere obbligatorio. No, questo, no. Questo lei che farebbe la castrazione? Lei che farebbe la castrazione? Una ragazza violentata da un gruppo, non c'è più il carcere obbligatorio, li lasciamo, sì, liberi, così magari la violenta la seconda volta. Lei che cosa farebbe? Una bella castrazione magari? Guardi, io se fossero presi realmente, sì, sul fatto, per quanto mi riguarda dovrebbero rimanere in carcere a vita, a perché vita. Uno stupro di gruppo rovina, sì, per sempre la vita a una persona, dovrebbero passare il resto della loro vita in carcere, punto, neanche fargli il processo. Benissimo. Se vengono colti sul fatto, beh, questo ci mancherebbe. Se no, se invece c'è solo una, sì, denuncia, bisogna verificare se è vero, ci mancherebbe altro. Senta, Rossi, ma mi viene in mente una cosa, ma è vero che lei è favorevole all'esistenza in Sudafrica di uno stato di Afrikaner? Io? Sì. No, non sono mai espresso su una cosa del genere, se... Come no? Ci fosse un... No, io non ho mai parlato di una cosa del genere. Dove le risulta che sia uscita una cosa così? No, ma mi risulta che lei abbia presentato una sorta di interrogazione al Parlamento europeo in cui... No, insomma, abbiamo fatto un'interrogazione. Mi sembra che lei si dica di essere favorevole, cioè non è del tutto sfavorevole alla... No, attenzione. Io non ho chiesto che si costituisca. Chiedo che se fosse possibile, ci fossero le esigenze, potrebbe essere fatto. Certo, se a seguito... Ma... Cioè uno stato di soli bianchi in sostanza. Io sono a favore, in, sì, qualunque paese, sì, se c'è una maggioranza in un'area, sì, che è ovviamente, sì, anche magari limitata, che, sì, chiede di costituire un nuovo sistema paese, il problema, sì, non deve esistere. Dunque, come gli Afrikaner, gli Afrikaner, sì, come neanche sono stato contrario alla scissione tra Repubblica Ceca e Repubblica Dunque, Slovacca, se, ma se dov'è il problema? Dunque, gli Afrikaner bianchi, se vogliono uno stato in Sudafrica, lei è favorevole? Io sono favorevole a condizioni che attenzione, a, sì, condizione che democraticamente si raggiunga quel risultato. E vabbè, certo, ancora, certo, democraticamente, no, anche vabbè, la Padania, certo, mica bisogna farla con le forze armate. La Padania, se mai ci sarà, cosa che io mi auguro, come assolutamente, come autonomo, come, sì, macro regione, dovrà essere e passare esclusivamente a fronte di un processo democratico. Dunque ci vuole uno stato di Afrikaner bianco in Sudafrica. Bene, grazie. Grazie. No, devo dare la borsa. Devo dare la borsa. Grazie, dice. Lei vorrei fare felice la mia nonna, una casettina in periferia, la mogliettina al posto fisso. Siamo qui la Zanzara, 800 24 00 24. Torniamo in onda, caro Parenzo, dopo questa performance di Oreste Rossi, il quale difende questo ricorso incredibile, secondo me, sì, per questioni di principio, ricorso sui vitalizi. Intanto si allarga, sembra, lo scandalo di Lusi, perché bisogna fare chiarezza su dove siano finiti questi soldi, quanto è stato dato alle varie correnti e poi confluite nel Partito Democratico, chi sapeva e chi non sapeva invece dell'utilizzo di questo denaro, stiamo parlando del finanziamento pubblico, di soldi nostri, cari ascoltatori della Zanzara, soldi nostri incassati dai partiti. Ma mi ha chiesto quando andiamo in vacanza, c'è troppo coinvolgimento, E poi sta montando anche la protesta, giustamente, degli psicologi che sono iscritti alla cassa di previdenza. Perché insomma hanno preso una mezza fregatura, hanno pagato molto di più una casa che un secondo prima era stata pagata di meno, ma questo fa parte, come dire, dell'alea, dell'incertezza delle transazioni immobiliari, oppure è stata una fregatura per qualcuno, per molti, e un vantaggio per pochi? Indagherà la procura, come già sappiamo. Intanto i numeri di telefono del signor Lusi e del signor Conti sono, squillano, ma sono irraggiungibili, irraggiungibili. Come mai? Però dobbiamo precisare che il senatore Conti, bresciano, anche se la procura indaga, non ha commesso nessun reato. Allora, bisogna dire tutto, però, la procura indaga... No, non dire tutto, voglio sentire gli ascoltatori. Senza indagati e senza ipotesi di reato ancora. Sì, sì. Ma intanto ha aperto un fascicoletto. Marco D'Avellino. Per carità. Marco D'Avellino, buonasera. Buonasera Cruciale, volevo esprimere la mia opinione in merito all'affermazione del capo del governo, che io condivido in pieno. Sono un lavoratore dipendente, ho 46 anni da quando ne avevo 22, sempre nell'area amministrativa, ho cambiato lavoro diverse volte, pur avendo sempre, lavorando a Napoli, in Campania, quindi in un posto non facile, sempre lavori a tempo indeterminato, però mi si sono offerte varie opportunità che ho sempre ritenuto di cogliere, consapevole del fatto che cambiare azienda comunque espone a uno stress, a dei rischi, però sì, ho riscontrato che ho sempre arricchito il mio bagaglio personale e professionale, e questo è stato sempre apprezzato dalle aziende. Dunque lei è promontiano, cambiare lavoro serve. Io credo di aver colto lo eccetera, spirito eccetera. Con il quale Monti, ma sì, voleva dire, è lo spirito che lei giustamente ha colto, è quello secondo me, ma perché no? Corretto. Ma aiutare le persone a rendersi più appetibili sul mercato del lavoro, non è solo appannaggio dei liberi professionisti confrontarsi con realtà diverse. Bene, grazie Marco. Attilio da Varese, buonasera Attilio, che dicevi, Parenzo? No, ma io per carità dico semplicemente che per noi, per gente che comunque, sì, come dire, ha la possibilità di cambiare dà un'energia positiva. Ci sono migliaia di persone, sì, che cercano, che magari non hanno hanno anche una professionalità, ma non così affermata, per, sì, cui per anni sono frustrati e non trovano lavoro. E allora? E per loro non c'è la noia, non vogliono il posto fisso. È offensivo dire una cosa simile. Ma non c'entra, offensivo. Ma cosa c'entra te ne l'offesa? Rendi conto, sì o no? Ma cosa offensivo c'entra l'offesa? Non c'entra assolutamente nulla. È semplicemente detto che è noioso. E non ha detto è che umiliante. È semplice. Ma lascia perdere, non ha detto questo Attilio da Varese. Buonasera Attilio, non c'entra nulla, non ha detto questo, non rompere le scatole. Attilio Befera, chi è? Attilio da Varese, buonasera. Attilio Befera. Magari. No, beh, magari. Magari fosse Attilio Befera. Buonasera Cruciani. Dica. Pronto? Sì, è lei al l'auricolare, quello che è, il telefono, il viva voce, si tolga da lì altrimenti non capiamo nulla. Sì, pronto. Lei ha il viva voce? No, non ce l'ho più. Ah, ok, benissimo, adesso, vada. L'ho tenuto perché è un'ora che sono al telefono. Sì, sì, lei ha fatto benissimo. Senta, quando si dice per principio, normalmente è solo per soldi. Comunque io sono un leghista che ha sempre votato solo leghista, prima non votavo. Sì. Le ultime tre votazioni, da provinciali, comunali, eccetera, ho buttato la tessera nel cesso. Semplicemente grazie a questi signori tipo Onorevole Rossi, i vari Pesci, Trota, eccetera. Sì. Io sono di Vergiate, a Vergiate è nata la Lega, che se ne dica, sì, perché che è nata cosa la le ha dato, che cosa le ha dato fastidio dell'intervento di Rossi? Tutto. Il fatto di attaccarsi a queste cose, 50 anni... Quando si dice per principio è solo per soldi. Io ho 63 anni, lavoro da 42 bravo, anni, bravo, sto bravo, lavorando tuttora e lavorerò finché posso lavorare. Grazie Attilio, grazie. Andrò in pensione con 1.200 euro al mese. Bravo, bravo. Sono sottoposto a ritenuta d'acconto, pago fino all'ultima lira, sì, non mi sento un eroe, è giusto che lo paghi. Punto e basta. Grazie Attilio, andiamo a Verona. Carlo, grazie, grazie a te. Intanto, dimmi una notizia. Perché questa è la professione in cui arrivano messaggi. Sì, dimmi. Sì, pronto. Pronto? Sì, Carlo, un attimo, Parenzo, sì, che notizia mi devi dare? No, una notizia, è arrivato sul mio messaggio, sul mio cellulare, il messaggio di un signore che si chiama Liguori, il direttore, sì, Liguori, Paolino Liguori, sì, il quale dice Lusi come chiesa, è interessante, è una riflessione. Lusi? l'usi come chiesa, come Mario Chiesa, scrive il direttore Liguori. Cioè l'inizio di una valanga per quello che riguarda il finanziamento però dei partiti, questa roba qua. Credo che sia questa la cosa, eh? Un messaggio in stile Twitter, ormai si ragiona solo così. Poi che vuol dire l'usi come chiesa? No, adesso ti rimanderà un messaggio e ti spiegherà. Secondo me, credo di interpretare quello che grazie, dice Paolo Liguori, è l'inizio, come dire, di una valanga, sì, che riguarda la questione del finanziamento dei partiti. Questo però può essere interessante. Come si dice, cioè, in due parole, il grande Liguori ha reso un concetto enorme, no? In due parole. Bene, Carlo da Verona. Perché? Buonasera. Carlo, buonasera vada a tutti. Vada, vada. No, vi volevo consigliare di aprire una piccola rubrica durante la vostra, sì, trasmissione, che normalmente in tutte le trasmissioni radiofoniche c'è, che è quella del santo del giorno. Sì. Solamente che io la nominerei il pirla del giorno. Sì. Okay? Perché ogni volta, ogni giorno, riuscite a trovare sempre qualcuno che fa la figura del pirla, che fa la figura del pirla. In questo caso il nostro carissimo onorevole Oreste Rossi, sì, okay, che pensavo che avessimo già una buona rappresentanza di pirla al Parlamento italiano, invece mi accorgo che abbiamo anche una bella rappresentanza di pirla al Parlamento europeo. Sì. Okay? Perché questo signore aveva solamente il coraggio di lamentarsi che a 50 anni non gli danno la pensione, ok? Quando naturalmente ha preso già, cioè, un lui dice che ha stipulato un contratto avversando, sì, delle rate, certo, per cui era previsto che a 50 anni dovesse, però dovesse anche avere dei soldi. C'è anche l'operaio che stava lavorando a 38, sì, anni, ok? Ah. Che ha stipulato il contratto con l'INPS, ok? Ah. Che gli hanno detto che probabilmente andava in pensione, sì, quando aveva, ma guardi, non deve spiegare a me quello che quindi, è, no, di tutta evidenza. Mettere sulla rubrica del pirla del giorno, perché bisogna essere proprio pirla, avere il coraggio, ok, di venire fuori con queste cose qua e dire che è una questione di principio. La questione di principio è che lui dovrebbe andare in quel posto e forse un bel dove principio. Dovrebbe andare, scusi? Siamo in radio, meglio non dire. No, siamo in una radio un po' particolare dove si possono dire un sacco di cose. Dovrebbe andare a cagare. Benissimo. Okay. E bene, forse con lì, allora, quando caga si riflette, vabbè, okay, adesso, sulle perlate che adesso non entri nel dettaglio, non entri, no, nel dettaglio di cosa dovrebbe fare andando in, no, quel posto. Lei ha detto una cosa, va bene, abbiamo capito. Quando vai in quel posto, sì, sia anche un po' stitico, che così almeno soffre un po' e forse capisce. Bene, grazie Carlo. La ringrazio, saluti. Abbiamo con noi caro Parenzo, caro Tremo. Parenzo, caro Parenzo, no, non tremare, non tremare, è un ospite che viene ogni tanto alla Zanzara, è un po' di tempo che non era, bene, con noi, non so dove si trovi, se in Piemonte oppure a Roma, e comunque Guido Crosetto, PDL, ah, buonasera. Buonasera a voi. Come, no, sta? Come sta? Siete sull'attenti tutti e due? Perché? Sì. No, così. Perché dobbiamo stare? Rispetto, no? Nei suoi confronti? Beh sì, ma se vuole, sì. L'amicizia. Sì, come sottosegretario, dice, ex sottosegretario alla difesa, no, ci dobbiamo mettere così. Senta Crosetto, ma iniziamo dalla frase del giorno, che poi è quella di ieri sera detta a Mediaset, a Matrix, se non sbaglio, da Monti, questa cosa sulla monotonia, sulla monotonia. Io, come lei ha ascoltato, credo in questi minuti l'ho esaltata, perché secondo me è una sorta di rivoluzione culturale, se vogliamo, adesso sto esagerando naturalmente, però insomma il fatto che il premier dica bisogna abituarsi a non avere il posto fisso per tutta la vita, effettivamente il posto fisso è monotono, però aggiunto delle altre cose, è chiaro. Come la giudica questa cosa? È stato attaccato soprattutto a sinistra, è come se oggi, dopo la questione della giustizia alla Camera e dopo la questione della, di ieri di Monti e le frasi di Monti su Berlusconi, Bersani si fosse improvvisamente risvegliato e dice ma forse questo governo è un governo che è un po' diverso da quello che immaginavo. Vabbè, insomma, Crosetto, la monotonia e il posto fisso. Ha sbagliato, capita, o no? Capita a tutti di dire delle cose, magari delle cose stupidaggini senza pensarci, capita anche a nonno Mario, quindi. Dunque una stupidaggine? Una stupidaggine, vede, bollo come stupidaggine qualunque cosa, io ne dico anche un sacco, ma anche voi, intanto qualcuna, che può offendere delle persone che invece ritengono la cosa di cui sto parlando una cosa seria. Allora, e perché? L'offesa nei confronti di chi in questo caso? Nei confronti di quelle persone che vedono il posto fisso come un obiettivo da raggiungere per dare sicurezza a se stessi e alla propria famiglia. Ok, ma lui ha detto il posto fisso è una noia se c'è un posto fisso tutta la vita, non è che ha detto l'aspirazione al posto fisso è sbagliata. Io, adesso, no, io non voglio attaccare, cioè non voglio dire che ha detto, allora, se uno dice in televisione, signori, viviamo in un'epoca diversa rispetto a quella degli anni 40-50, sì, in cui era più facile trovare un lavoro e mantenerlo tutta la vita, viviamo in un'epoca in cui purtroppo, sì, I più giovani e i meno giovani dovranno abituarsi nella vita a cambiare una, due, tre, sì, volte, sì, quattro lavoro. Quindi questa è una frase, no? Per cui, ma che non significa non ambire a un lavoro che nel momento in cui lo faccio mi dà una sicurezza. Cioè, la gente se l'è presa perché per posto fisso si intende normalmente un rapporto di collaborazione continuativa, sì, cioè, sì. Non un contratto a tempo determinato, ma un contratto a tempo indeterminato. Poi uno può averne un giorno uno in un'azienda, un giorno puoi cambiare azienda, puoi cambiarla anche 4-5 volte, ma ognuno tende ad avere una cosa che gli dia sicurezza, quando fa un mutuo, quando ha dei figli da mandare a scuola, che gli dia la certezza di avere quello stipendio fin quando lui ha voglia di lavorare. Dunque può sicurezza lavorare. È bello, dice lei, posto tempo indeterminato è bello piuttosto che... Piuttosto no, che... non dico che è bello, dico che dà della sicurezza, ma vale per me o per lei, cioè l'indeterminatezza è una cosa in cui nessuno di noi vive bene. Cioè c'è chi può permettere. No, ma questo è d'accordo in generale, ma cosa c'è di, generale, cosa allora, c'è di infelice nella frase di Monti? Elevate. Nella frase quindi di Monti? L'indeterminatezza è un modo per guadagnare. No, certo, certo, quello non c'è dubbio. E ci sono professionalità per cui invece l'indeterminatezza è una condizione di vita che è un dramma. Ci rende insicuri, ma sì. Nei confronti degli obblighi che abbiamo verso i figli o verso certo. Gli impegni che prendiamo. Scusi, cosa c'è di infelice nella frase di Monti allora? Perché ha sbagliato? Ha offeso qualcuno? Ha offeso una delle categorie di persone che... No, ha sbagliato. Cioè, lei non voglio dire, ha offeso. Dice della gente, dice non prendere in giro una cosa che per la maggioranza delle persone è un punto di arrivo. È come se io dicessi scusi, sì. Dico una frase, è monotono una sola moglie. È monotono? È una sola moglie. Molte cose su cui poter dire monotono suscitando scandalo, suscitando la reazione di qualcuno. No? Poi, abbiamo 30 secondi, torniamo subito. Per lei è monotono avere una sola moglie? Io mi sono separato. Quindi. Dunque è monotono? Ho interrotto la monotonia, ma ci vado d'accordo tantissimo anche se è la mia ex moglie, quindi nessun problema. Però per lei cos'è monotono per Guido Crosetto? La cosa la monotonia, come dire, per... Ma il sesso è monotono per lei? No, quello no, immagino. Che ne sai tu? Ma no, cioè guardi, no, è una delle poche cose non monotone nella vita. Pensi un attimo, cos'è monotono per lei? Per Monti il posto fisso tutta la vita, per Guido Crosetto 30 secondi. Allora, cos'è monotono per lei? Dire sempre le stesse cose, ripeterle senza avere successo, senza essere ascoltato, quello è monotono. Vabbè, monotono, questo è una, come dire, questo qua è... E dopo un po' che uno le dice. Ripetere sempre, non cambiare mai idee è monotono, dice lei. No, per me è monotono, ad esempio, continuare a dire, dico una cosa seria, poi mi scuso di dirla, continuare a dire, pensiamo anche al debito e alla crescita, cioè siccome lo dico da troppo tempo ormai mi sento monotono, mi annoio da solo. Poi oggi ho letto le agenzie di Tremonti. Quindi Tremonti. Ha parlato. Vabbè, sì, è tornato a parlare, non è un crimine, dovrebbe tacere. Assolutamente no. Dovrebbe tacere, però, secondo lei? No, però ho letto alcune cose per cui. Ha scritto anche un libro, ha visto? No, che però lui mi dica, guardi, posso. Scusi un attimo, su questa cosa di Tremonti, su questa cosa. Posso fare dei danni? Sì, faccia dei danni. Cito una cosa che è sulle agenzie di agosto. Sì. In una delle mie salti di rabbia quando Tremonti dissi guarda il prossimo anno con queste manovre che stai scrivendo tu come le stai scrivendo noi avremo un debito che un prodotto interno lordo che scenderà del 2,5%. Se sbaglio io il prossimo anno mi dimetto e torno a fare il mio lavoro. Ma se avete tolto tu e Calderoli, perché allora Calderoli mi attaccò quando io dissi questo, se avete tolto tu torni a fare il fiscalista e lui il dentista. Oggi lui dice quest'anno il prodotto interno lordo scendeva del 3%. Del 3%, sì. Si rilegga la mia dichiarazione e decida cosa fare. Dunque, torni a fare il fiscalista? No, se la rilegga. Se no, vabbè, andiamo fino in fondo a questa cosa. Tremonti deve tornare. Se ha un po' di dignità, dovrebbe tornare a fare il fiscalista. Ma io l'ho messo nel mio incarico dicendo quella frase che allora, quando tutti lo incensavano, che allora era dura e tutti mi attaccarono. Lo dissi e dissi cosa aveva risposto a fare. Se mi sbaglio, me ne vado. Scusi, se torna a fare il fiscalista, sarebbe meglio per il paese, si può dire così, per il centrodestra in generale, se ancora esiste il centrodestra. Poi, no, questo sarebbe troppo duro, ma sarebbe prendere atto del fatto di essersi sbagliato. Io oggi avrei voluto dire, cioè, ho sbagliato a non ascoltare quelli che mi dicevano determinate cose. Perché non dice quello avrebbe la dignità di dire qualunque altra cosa. Perché non dice mai ho sbagliato Tremonti? Un po' come Berlusconi da questo punto di vista. Comunque, forse... No, Berlusconi l'ha detto un sacco di volte. Cioè, è più presuntuoso di Berlusconi, Tremonti, sì. Ma, insomma, sono due caratterini, sono due caratterini tutti e due. I dei non ammettono mai di essersi sbagliati. Ho capito, ma dunque lui si considera un dio? Ma no, si considera quasi infallibile. Quasi infallibile, quasi. Addirittura. Ma che futuro politico ha, secondo lei, Tremonti? Non lo so. Beh, si sarà fatto qualche idea, lei che è un nemico storico. Storico. No, io non sono un nemico, no, no, io. Ma nemico no. Dal punto di vista delle cose che faceva, suo, no, anzi, no, ma delle cose che faceva. Un personaggio intelligente che ho conosciuto. Ecco, questo è interessante. Non è persona intelligente con lo stimo, è persona. Alcune cose che ha fatto le ho criticate e continuerò a criticarle, ma non è nei miei pensieri. Cioè, tipo, se non parla, io non mi ricordo neanche che esista durante il giorno. Ci sono cose più serie in questo momento. Adesso c'è nonno Mario che invece parla tutti i giorni in televisione. Perché ce l'ha con nonno Mario? No, nonno Mario ce l'ho sul fatto. Quella di nonno Mario era fantastica. Beh, quella del sito. La bambina di 2 anni e mezzo. La bambina di 2 anni e mezzo era strepitosa. Nonno Mario in televisione a dire cose sagge. Cioè, questa è bellissima. Questa è bellissima. Parte che è un genio, sta bambina. Comunque. Però, sa, in questo caso sono gli errori degli uffici stampa di chi fa le pagine. Già, ma possiamo. Dobbiamo scherzare. Non accetto di vivere perennemente in tristezza. Già. Dobbiamo scherzare. Per fare cose serie, occuparmi di cose serie, ma di farlo. Però mi dica la verità, Crosetto. Monti e il governo Monti. Lasciamo perdere questa storia adesso dei precari, eccetera, ma anche di nonno Mario, è meglio del governo Berlusconi dal punto di vista delle cose che fa? Mi dica questo. No, non, ma non, non riesce. Sincerità, no, il governo ha fatto delle cose che il precedente governo non è riuscito a fare e non sarebbe riuscito a fare, ma anche perché gode di una maggioranza di 550 voti che in nessun paese democratico esiste. Ma è più autorevole anche questo governo. Ma lei una volta disse che addirittura è una tale maggioranza che siamo quasi al fascismo, siamo quasi al ventennio. No, non ho mai detto una cosa seria, dico che un potere così grande dato a un esecutivo c'è solo in Cina. Beh, ho capito, allora? Se lei fa questo paragone con la Cina, avendo un potere così grande, possono fare cose importanti e devono fare cose importanti. Fanno abbastanza o troppo poco secondo la sua ottica? Hanno fatto delle cose importanti, bisogna usare di più, iniziare a toccare lo Stato, il costo dello Stato, il funzionamento dello Stato e il debito. Cioè, no, guardi, io l'abbraccio fortissimo quando dice queste cose, perché sono d'accordo. Perché alla fine se noi non disegniamo adesso uno Stato che tra 5, 10, 15 anni costi 20-30% in meno, se noi non iniziamo adesso a toccare, dopo, assieme alla politica, al Parlamento, il potere della burocrazia, limitando le confronti. Perché Berlusconi non ce l'ha fatta? Mi dice perché non ce l'ha fatta Berlusconi? Crosetto, era lì per questo, era lì per questo. La colpa di Tremonti è grave? Non mi dica che è colpa solo di Tremonti, no? No, è una parte, in parte la suddivisa tra tutti. Guardi, la colpa più grave è della politica, secondo me, quella che io, se dovessi criticare, fare l'anticasta farei, è l'incapacità di far prevalere l'interesse dei cittadini rispetto a quello della burocrazia. Perché lavorare all'interno dello Stato e di guidare le istituzioni significa studiare, conoscerle profondamente, in modo da poter contrastare quelli che ti dicono abbiamo sempre fatto così. Dopo un mese che c'ero, la gente ha smesso di dirmi abbiamo sempre fatto così. Però scusi, Crosetto, qui è sbagliato, si cambia. Si vede anche in queste ore, autorevoli esponenti del PDL appoggiano tutte le categorie possibili e immaginabili che protestano contro Monti. È incredibile, questo fa capire il perché alcune cose anche piccole non venivano toccate prima. Per carità, anche nel PD ci sono gli stessi problemi, eh. Sentiamo la pubblicità, torniamo subito. 800 24 00 24. Bimba, se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia, guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia ne ho passato da dimenticare. Roma, immagino, Roma. PDL, ex sottosegretario alla Difesa, il quale ha detto nei giorni scorsi, anzi no, ieri, l'altro ieri, non ricordo, che... Un attimo, però, prima di affrontare la questione Befera, c'è un'altra cosa che ha detto Tremonti oggi a Porta a Porta. Ritengo che non si debba fare l'apologia del precariato, il posto fisso è tra i valori fondamentali della vita. Non mi è parsa la frase più adatta per i tempi che stiamo vivendo a proposito di Monti. Su questo Crosetto è quasi d'accordo, direi, no? Quasi d'accordo, ho detto prima che è un'aspirazione legittima di un sacco di gente, quindi non va presa in giro. Non va presa in giro. E poi ha detto anche: per 3 anni c'è stata la politica economica, una politica economica positiva, ha detto Tremonti. Poi serviva il sogno, insomma, ha attaccato un po' Berlusconi, diciamo la verità, con questa cosa qua. Serviva il sogno, serviva ridurre le tasse. Questa è la sua ricostruzione del logoramento della maggioranza. Che ne pensa di questa ricostruzione, Crosetto? Posso non parlare? No, come no? Deve parlare. Continuo a dire le cose che il suo partito gli diceva, lui non le ha mai ascoltate. mi pare che il primo che non abbia voluto credere nel sogno e nella possibilità di cambiare paese sia stato lui. Beh, infatti lui il sogno lo dice che non ci voleva il sogno. D'altronde ha tantissimi pregi, lo ripeto, una persona più intelligente sia in Italia, ma basta guardarlo, non è una che ha tanta volontà di sognare. Perché basta guardarlo, dice? Perché non è proprio il tipo, cioè, da sognare, da avere un sogno. Ah, non sogna mai. Non è il tipo, lo direi, Eva Dream. Cioè, no. Lei l'ha mai visto buttare il cuore oltre l'ostacolo, no. Cioè, come a chi lo paragonerebbe lei? A un travè, a un impiegato? un Assolutamente no, ha una grandissima testa. No, però voglio dire, lei dice... Ma uno di quelli che sembra che uno lo vede, no? Ne incontriamo tutti, che dice, ma questo gli hanno estirpato il cuore. Gli hanno estirpato il cuore. Dire... Cioè, uno senza grandi idee, cioè senza grandi slanci, dice lei, no? Cioè, senza amore, non sa amare. Passione. Senza passione, non sa amare. No, parlo passione in politica o nella vita. Però nella vita magari la stessa. Personale, cioè se uno lo conosce. Se uno sa amare in politica, sa amare anche nella vita. È un tutt'uno spesso la cosa. Non è che le persone si sdoppiano. Non condivide questa cosa? Alcuni dividono, no. Alcuni dividono proprio la loro attività, eccetera. Senta, perché lei ce l'ha tanto col signor Befera? Ha detto addirittura che è il grande capo dell'Agenzia delle Entrate, ha detto addirittura che è uno, insomma, che avrebbe bisogno di una quasi di una cura psicologica, è uno disturbato psicologicamente. Beh, sì, come ho no. Ho detto che le frasi dette nell'intervista di Befera hanno su Repubblica sono, diciamo... Come le giudica? Lui ha attaccato tre persone, no? Sì. Dicendo questi sono i capi, uno è Goffi, che è un consigliere regionale piemontese, tra l'altro dell'UDC, sì, l'altro, come è no. Zamparini, l'altro è Zamparini, l'altro è non mi ricordo. Non mi ricordo il terzo. No, Goffi, no. Zamparini e non mi ricordo. Non vabbè. E allora? Goffi e Zamparini. Sì. Stanno facendo una nuova battaglia, ripeto, non è gente del mio partito, anzi gente magari anche contro il PDL, che contro alcuni eccessi non dell'Agenzia delle Entrate, di Equitalia. Sì. Cioè, che è un'altra cosa. No, però scusi, sono persone che dicono, l'hanno detto anche ai nostri microfoni, soprattutto Zamparini, che Equitalia sono dei delinquenti, che rovinano le persone. Poi naturalmente queste sono le frasi, nel merito distingueranno tra quelli buoni, le cose buone, le cose positive. Io guardi, c'è una cosa sostanziale, un conto l'evasione fiscale, togliamola, no? Fa schifo a tutti, va combattuta. Un conto è Equitalia, alcuni comportamenti, ma che la legge consente, infatti bisogna cambiare la legge, sia in termini di aumento del debito dovuto, parlo di poveri cristi e non parlo dei grandi evasori, quelli si mettono d'accordo prima con l'Agenzia delle Entrate, definiscono e pagano, no? Equitalia interviene quando c'è la cartella esattoriale che uno non è riuscito a pagare, che sia una multa, allora? Che sia i contributi agli operai, e intervengono in modo asettico, senza sapere chi hanno di fronte, quali sono le condizioni delle persone che hanno di fronte. Cito un esempio piemontese uscito sulla stampa: artigiano, 4 dipendenti, settore degli stampi plastici, malattia gravissima, 2 anni in ospedale, in quei 2 anni non licenzia un dipendente, si impegna la casa per mantenere il posto ai dipendenti, ma non riesce a lavorare. Dopo 2 anni salta il pagamento, no, non evade, salta un pagamento che lui ha dichiarato di dovere, di contributi ai dipendenti. Arriva Equitalia, gli impignora l'immobile e i macchinari e li mette all'incanto. Allora, uno Stato che si comporta così senza sapere chi hai di fronte, questo è da 2 anni in ospedale. Comunque sono disumani, Equitalia si comporta in alcuni casi in modo disumano. E allora, questo non è accettabile. Poi ci sono persone in cui invece va benissimo che lo Stato sia duro, inflessibile e anche violento, ma non saper discernere. Se mi trovo davanti il povero Cristo, quello che non paga perché non può, questo è una cosa che però, lo stesso Stato lì c'è un merito storico, però anni in ritardo di dipendenti. Non ho capito. Però Crosetto, lei ha detto un'altra cosa su Befera. Lei su Befera ha detto sul responsabile di quel posto lì, bisogna essere due sani di mente, sia capo dell'Agenzia delle Entrate sia dell'Equitalia. Sì. Lei ha detto la controversia è fatta da persone con un profondo senso della giustizia e dell'equità e del cui equilibrio psicologico si sia certi. Ecco, dunque, secondo lei Befera, per quello che ha detto nell'intervista Repubblica, è uno un po' non squilibrato. Ha no, adesso direte che come al solito voi due che siete due fenomeni. Ma no, ma scusi, ma no, ma la lotta all'evasione va fatta, la lotta all'evasione e la gestione equitaria va fatta a persone che abbiano queste caratteristiche. Ho capito, uno, ma Befera ce l'ha o no? Dice, uno che sul giornale dice individuo tre nemici in Italia. Dico che c'è un partito che difende l'evasione. Quindi non ha quei requisiti. Dico, aspetti un attimo, e parlo sapendo che ci sono dei vincoli per chi copre posizioni come le sue, dei vincoli di legge che rendono l'intervista, sia quella in televisione, un atteggiamento illegittimo. Cioè, non sei tanto cosa se non ti rendi conto che la posizione che copri dovrebbe portare a un'attenzione maggiore nell'uso delle parole. Per la stessa cosa, dà del grande evasore a una di queste tre persone. Sì, a Zamparini, così, sì. Su cui noto evasore. Mi dicevano non c'è neanche una cosa fiscale, no? Quindi non è un modo con cui si può. Dunque, secondo lei Befera è una persona equilibrata o è uno squilibrato? No, lui dovrebbe difendere giustamente l'attività dell'Agenzia delle Entrate e dovrebbe lui per primo capire quali sono stati i limiti in questi anni, d'accordo, di Equitalia. Però scusa, io voglio riprendere l'ultima parte della sua frase, il cui equilibrio psicologico si sia certi. Siamo certi dell'equilibrio psicologico di Befera o no? Oh no, ma l'intervista a me ha suscitato qualche dubbio che anche lui si sia montato la testa e abbia pensato che la presenza televisiva o sui giornali fosse una cosa da perseguire. Beh, no, una cosa è questa. Il suo ruolo non fa. Una cosa che al suo ruolo non fa, lui è stato zitto per anni ed era giusto che lo facesse in modo quei mestieri lì si fanno, sì. E sono altri evidenziali, non sono mestieri diversi. Cioè, sono mestieri che si fanno in silenzio. Voi, o in qualche modo è collegato alla politica. Cioè, è un lavoro che va fatto con. In silenzio? Contenendosi, difendendo le posizioni giuste da difendere, capendo anche quando si fanno degli errori, ma non nel modo con cui è uscito ultimamente. C'è una frase che ha detto. Lui risponde alla domanda e dice: sì. Ah, prima non potevamo fare queste cose perché. Dà dei giudizi politici, certo. Dà dei giudizi politici che in quella posizione, secondo me, non è corretto dare. È corretto che rimanga lì oppure dovrebbe andarsene? Dopo questa intervista, siccome io sono un peccatore come due, ho la tendenza facile al perdono, nel senso dico le persone possono sbagliare, l'importante è che poi si correggano, l'importante è che lui corregga, soprattutto per quanto riguarda questa il suo ruolo di capo di Equitalia, capisca cos'è stata Equitalia. Parlo per centinaia di migliaia di piccole persone che non sono in grado di difendere e a cui ha rovinato la vita. Guardi, a Piazza Pulita ha detto una frase, Befera, ha detto una frase che riguarda ancora un giudizio sugli evasori, vediamo se la ritroviamo. Eccoci, siamo qui, intanto Grillo, come sapete dal suo sito, dice che io a Sanremo non ci andrò mai, non ci vado ora nel 2012, non ci andrò mai, nessuno mi ha chiesto di partecipare, nessuno ha posto un bet e chi lo scrive è un fellone, anzi una merdaccia. Ci sarebbe verdade. Una ragione, assolutamente sì. Vorrei dire a Crosetto una cosa, però, perché Befera è stato messo lì non dal governo Monti, lo so. Quindi all'epoca di Berlusconi, come mai era così silente il signor Befera? Dovete chiederlo a lui, ma lo so. No, ma secondo lei? Lo so da chi è stato messo perfettamente. Befera è lì in un accordo Visco-Tremonti. Ma quindi non è che c'è un clima diverso ora nel paese per cui anche lui si sente, come dire, più protetto nel combattere l'evasione fiscale? Basta, non è mai stato combattuto, l'evasione fiscale è sempre stato un problema, poi ci sono delle volte che le liste della Guardia di Finanza vanno nelle prime pagine, altre volte che passano vanno nelle prime pagine. Anche Befera è colpevole del fatto che la battaglia contro l'evasione fiscale nel passato non è stata fatta a sufficienza, lei dice, essendo... Era lì e dunque? Non è che il potere che aveva, che a oggi ce l'aveva 2 mesi fa, 6 mesi fa, 1 anno fa, 3 anni fa. E però lui dice che c'è la politica gliela, sostanzialmente in quell'intervista ha detto che la politica gliel'ha impedito. Sarebbe in carino dicesse che chi gli ha impedito e chi gli ha dato ordine di non farlo. Se coraggio fosse serio non butterebbe frasi così, direbbe nomi e cognomi, no? Lei come vede, come sapete, io a mettere nomi e cognomi non ho mai avuto problemi. E anche in questa battaglia che faccio da mesi contro gli abusi di Equitalia non è che mi diverto, cioè lei non pensi che io a cuor leggero dica cose su uno come Befera o sull'Agenzia delle Entrate su Equitalia? No, cioè ha paura lei di Equitalia? Lei ha paura di Equitalia? Non è che non sto parlando così di verginelle che quando io prendo posizioni dure come quelle che prendo diranno oh cattivone Crosetto, no, io mi rendo conto loro? Che ci sia la, ho paura che siano tutti i computer concentrati su di me, però sa, alla fine uno si protegge col comportamento che ha e quindi va a fare delle battaglie anche se sa che non dovrebbe fare. Lei che tutte le volte che parlo mia madre mi dice ma stai zitto, Ma cioè lei ha paura che le sue posizioni, lei ha chiesto anche una commissione di indagine su Equitalia. Paura non parlerei. No, però ha paura che si accaniscano contro di lei, che ne so, che non mi fido io, di alcune parti dello Stato non mi sono mai fidato e non mi fido. Di Equitalia non si fida. Dell'utilizzo legittimo e puro di molte parti, non soltanto di quelle. Di chi è non si fida? Della finanza poi? No, della finanza mi fido, per carità. Una volta disse, ma era un altro discorso. Di chi è, per esempio, di Equitalia e di quelli che vanno a scandagliare magari tra le sue cose, di chi è che non si fida, Crosetto? Ma no, non mi fido di un sacco di gente, ma cioè, non toglie che dico le cose che penso. Ma no, il mio problema non sono io, ripeto, il problema di Equitalia è, se vuole, io ho migliaia, se volete ve le giro, migliaia di mail. Sì. Di cittadini normali, di cittadini comuni, di persone che si sono incontrati nella vita uno stato sordo, a cui hanno rovinato la vita e le famiglie, e ne ho migliaia, se volete ve le giro, di casi. Befera dice che lei fa parte... La multa che doveva pagare originariamente, l'ha già pagata tre volte e ha ancora la casa pignorata. Cioè, lei però, scusi un attimo Crosetto, Befera dice che le persone come lei fanno parte, perché si rivolgeva indirettamente anche lei, del partito degli evasori, così ha detto, quelli che fanno parte. Questa, siccome non si riferiva a me, si riferiva in generale. Anche a lei evidentemente. È una delle cose per cui le dico, quell'intervista Befera poteva risparmiarsela. Poteva risparmiarsi in generale le interviste e quello che ha detto, immagino. No, poteva risparmiarsi far finta di non capire chi difende i cittadini normali, ripeto, non parlo degli evasori, che hanno avuto un incontro con una sorda Equitalia e la lotta all'evasione. Sono due cose diverse, non confonde i suoi ruoli. Lui ha un doppio ruolo, ma lui sa perfettamente cos'è l'Agenzia delle Entrate e sa perfettamente cos'è Equitalia e sa che le critiche di alcune persone sono verso i comportamenti. Le sanzioni, gli interessi che Equitalia, per carità, sempre agendo su norme costruite ad hoc per quello, fa pagare ai cittadini. Se facessimo pagare io, lei, Parenzo, qualunque altro cittadino, sarebbero un reato, no, perché un debito di 500 euro che diventa 1.000-1.500 euro. Dunque commette reati. Noi si chiamerebbe usura e sarebbe un reato. Se lo fa Equitalia e agire negli interessi dello Stato contro qualcuno che si comporta però male. La risposta è, se non facessero così non avrebbero recuperato tutti quei soldi senza questa minaccia. Per esempio ha detto un'altra cosa recentemente del DNA. Io ritengo che le minacce potrebbero essere giuste. Allora, torniamo indietro. Io i 500 euro è giusto che ne recuperi 550, tanto per capire. Quando devo recuperarne 1.500, se ho gli strumenti per recuperarne 1.500, io per recuperarne 550, giusto? Perché devo abusare degli strumenti che lo Stato mi ha dato e recuperarne 1.500? Perché servono i soldi? Perché servono i soldi? Però guardi, non è che la necessità di soldi dello Stato legittima uno Stato forte con i più deboli. Cioè comunque è quasi usura secondo lei. Transano. I grandi evasori transano, hanno grandi tributaristi. Io non sto parlando di questo. Sì, no, ma ho capito, ma sembra usura. Della persona che non ha pagato una multa perché non aveva i soldi e che se la trova 3-4 volte. In molti casi è usura, lei dice, è come se fosse usura, tassi così alti, eccetera. Beh, tassi così alti, sì. Continuo a dire, sia equo lo Stato, poi usi i metodi duri per recuperare, ma sappia che per sapere che si trova davanti. Continuo a dire, non potete non sentire le cose che dico. Se si parla di una persona che ha 2 anni di malattia, non riesce a pagare perché ha un tumore di 2 anni in ospedale, lo Stato potrà essere pietoso, no? C'è bisogno che lo scriva nella lettera o ci trova il modo con cui uno Stato è pietoso con un cittadino? Allora, traffico, poi chiudiamo su Berlusconi, 800-24-0024 con Guido Crosetto, ex sottosegretario di difesa, PDL. Ma è uno di quelli che lei vuole... che staccherebbe la spina a Monti oppure lunga vita a Monti fino al 2013, Crosetto? Non c'è lo spazio per staccare. No, non c'è lo spazio, avete detto che non ci deve essere il traffico. E vabbè, però velocemente, bisogna staccare la spina. Il traffico, io vi ascolto, fate passare. Traffico, avanti, Eccoci, intanto impazza la vicenda Polillo, caro Parenzo, il sottosegretario all'economia. Che ieri qui alla Zanzara ha lanciato in sostanza un'idea: per fare i sottosegretari bisogna dare il curriculum alle persone giuste. In questo caso il curriculum è stato dato al signor Cicchitto. Anche tu vorresti dare un curriculum a Cicchitto, no? Sì, non so con quali risultati, ma glielo mando volentieri. Anzi, io lo mando, guarda, promesso, dal sito della... Sicuramente conosce la mail di Cicchitto, fa la mail privatissima di Cicchitto, per cui fatti dare da Crosetto dopo. No, non la conosce nessuno, non risponde neanche al telefono. Non risponde ma a sa telefono. Usare il computer Cicchitto o no? No, ma che sa usare? Ma figuriamoci. Ma va. Come? Ma è una cosa volgare usare il computer per Cicchitto. Volgare? Per Cicchitto sarebbe una cosa che non serve, ma figuriamoci. Lei andrebbe Crosetto in vacanza con Cicchitto, ad esempio, i grandi sondaggi della Zanzara? Sì, perché no? Un intelligente, è un grande lettore. No, ma molto intelligente. Un grande lettore, un uomo di una cultura straordinaria. Ma è vero, è verissimo. Infatti, a me anche se va. No, ma dico, rimarrebbe bloccato sulla tangenziale est di Milano sotto la neve per 6 ore in macchina con Cicchitto. Ma perché? Ma cosa? No, devo dire, molto meglio Cicchitto di Monti come simpatia. Addirittura. Monti, adesso magari in privato Monti. Poi rispondo anche alla domanda che mi ha fatto prima della cosa, se vuole. Sì. Io ritengo che sia ineludibile il 2013. Questo governo fino al 2013, così ho risposto alla domanda. Sì, sì. Ma è più simpatico Cicchitto di se lo si conosce in televisione magari sembra un cattivo carattere, ma in realtà sa essere simpatico. Monti non lo conosco bene dal vivo, ma televisione un po' noiosa. Che farà dopo, secondo lei? Secondo me il Presidente della Repubblica. Vuole fare il Presidente della Repubblica Monti, Sì, il Presidente della Repubblica, il Segretario Generale dell'ONU, il Presidente della Commissione Europea, un po' di tutto. grande ambizione, è un uomo molto ambizioso, Sembra lì un po' schivo, io così, un po' schivo, quasi mi avete invitato qui, ma in realtà grande ambizione l'uomo. E la presenza televisiva qualche segnale lo dà, no? Ma è bravissimo comunque, meglio lui o Berlusconi in televisione? Che ci deve pensare 3 ore? No, sto pensando, no, in questo per dare una risposta seria. Cioè lui a Matrix, lui a Porta a Porta, è meglio, cioè sono due stili diversi naturalmente. Due stili totalmente diversi. Due stili diversi. In questo momento per questo periodo lui. Cioè di Berlusconi la gente non ne poteva più dell'istrionismo, No, perché Berlusconi, ma secondo me non sbagliando, ha sempre pensato che il premier dovesse essere il primo a fare iniezioni di fiducia. Cioè, siccome le aspettative, faccio un discorso serio, le aspettative, voi due lo sapete benissimo, in economia hanno un valore fortissimo, perché se uno si aspetta cose negative, no, riduce i conti. Ma anche Monti, da speranza, da un certo punto di vista. Questo un po' meno, visto i dati dell'economia. Allora, sentiamo Polillo ieri però, perché il curriculum a Cicchitto è straordinario, Ho mandato un curriculum, ma io non è che l'ho mandato per posta, voglio dire, attraverso anche il presidente Cicchitto, che ho detto guarda io sono disponibile, lui dice vabbè mandiamo il curriculum e vediamo che succede. Questo era il curriculum a Cicchitto, Vabbè, comunque, si sa che questa era la, come dire, un modo. I tecnici sono stati comunque concordati con le parti politiche, assolutamente. Ma si vede perfettamente. Però sa, uno che ti dice ho mandato non è che la Fornero fosse esente da rapporti col PD. La Fornero io me la ricordo consigliata dal PD, secondo lei? La Fornero me la ricordo consigliere comunale con la sinistra all'epoca del sindaco Castellani, Sì. Cioè quindi non è che... Beh, però adesso col PD non ha un grandissimo rapporto col PD di Bersani. Se continua così appenderanno la sua foto e tireranno le freccette in tutte le sezioni. E qualche volta i tecnici nominati o comunque messi lì si ribellano, insomma, perché poi naturalmente... No, la Fornero non è che si ribella, le cose che sta facendo le dice da anni. No, ma assolutamente. È molto coerente. Lei è molto tifoso della Fornero, io sono un tifosissimo della Fornero. Della Fornero. È una coerente con quello che dice, ha fatto quello che ha detto e dal punto di vista dei conti pubblici, della saldezza del nostro sistema, abbiamo ormai un sistema pensionistico più sano economicamente. Dunque ha fatto, perché non ve la siete presa voi sta Fornero? Cioè perché non esisteva un ministro come la Fornero? Perché era un ministro come la Brambilla ad esempio. Ma io ritengo il Sacconi fosse un bravissimo ministro. Sì, però non l'avrebbe mai fatto. La differenza tra Sacconi e la Fornero è che Sacconi doveva, in parte voleva e in parte doveva continuamente mediare con le forze politiche che lo reggevano, B piccole parti sociali, la Fornero si è presa al lusso, grazie a una maggioranza non sua, ma di fottersene, volte, più o non meno. Mediare con nessuno di e fare cosa voleva. Più o meno, no, ho capito, però qualche volta i governi servono anche a non mediare e a decidere, Crosetto. Lo dice a me. Lo so. Io continuo a dire che i governi servono ad assumersi responsabilità indipendentemente dal risultato. Allora, Berlusconi è finito, morto? Non ha più nulla da dire in politica? Mi dica la verità, quello che pensa, Crosetto, su senza infingimenti. Guardi, è andato alla presentazione del libro di Razzi. Uno con la vitalità e con le vite di Berlusconi non l'ho ancora. È andato alla presentazione del libro di Razzi. Perché non è andato lei alla presentazione del libro di Razzi? Ma che c'entra, Crosetto? Perché non lo sapevo, Parenzo non mi avete avvisato. Ma come? Dice che l'ha mandato a tutti i deputati. La presentazione del libro di Razzi. Con tutto rispetto per Razzi, se avessi tempo per andare alle presentazioni di libri prima di quello di Razzi ne avrei altri 20 o 30, non vado normalmente alle sue presentazioni. A quello di Tremonti va? C'era la tristezza, va a qualche presentazione al libro di Tremonti? No. Voi siete veramente buonotto, siete veramente noiosi. Come dobbiamo chiudere, allora, a parte il libro di Tremonti, che l'ha comprato, l'ha comprato il libro o no? Di Tremonti, li compro tutti. Li compra? Ma certo, li paga o so? Ah, li legge? Sono interessanti oppure di una noia mortale? No, dice sempre cose interessanti. L'uomo è intelligente. L'uomo intelligente. Ma non dovrebbe fare politica sull'intelligenza sua, nessuno può mettere dubbi, guardi. Ma era adatto a fare politica oppure no? Secondo me non tanto, però. Non tanto. Era più un tecnico da affiancare ai politici. Qualcuno che avesse il coraggio di cambiare. Va bene, dobbiamo chiudere. Berlusconi, che fa? Oggi? No, ma che futuro ha? Come lo vede? Io lo vedo stanco. Io questa cosa io non lo vedo stanco. Questa presentazione del libro di Razzi. La storia di Milano che probabilmente avrebbe stancato chiunque altro. Ma questa presentazione del libro di Razzi mi ha messo una tristezza infinita. Questa è una delle cose che lo rendono grande come uomo. Perché? Perché è riconoscente. D'Alema che andava alla presentazione del libro di Razzi. Ha presente Prodi? No, assolutamente no. Secondo lei Berlusconi per cosa l'ha fatto? Per riconoscenza. Perché serve Razzi nella sua maggioranza? No. Ha preso un impegno e l'ha rispettato. Questa è la grandezza. Cioè, non gli importava che Razzi fosse uno una grande persona, uno che poteva servire. Gli ha promesso di farlo e l'ha fatto. Sì, no, ma questa è la grandezza, è la parte umana di Berlusconi che l'ha reso grande. È vero, io anche l'ho pensato questo qua. Ho pensato che era lì, per riconoscenza. Sì, politicamente chi gliel'ha fatto fare? Ma sì, appunto. Quindi questa è la lettura di Berlusconi, che prima o poi si leggerà che non è quello politico, è quello umano, e che è la spiegazione di gran parte del suo successo. E anche della sua rovina, in parte. E anche delle sue disgrazie, certo. Va bene, grazie, un abbraccio, a presto. A voi. Massimo da Siena, buonasera. Buonasera, volevo semplicemente sulla frase del presidente, nuovo presidente del Consiglio. Sarebbe bellissimo avere tutto il lavoro flessibile, sono d'accordo. Aspettiamo tra le frasi e le parole anche che attivi qualche legge, qualche decreto a fare in modo di supportare questa realtà. Magari poi quando andiamo in banca, anche con un contratto a progetto a tempo determinato, ci danno un finanziamento, sarebbe bello quello. Bravo. Sì, però non è che tutto dipende. Una vita modulata sulla flessibilità, ragione. Sì, ma io sono d'accordo, ma va benissimo, ma non è che noia, ma, che noia. No, ma non sono d'accordissimo, E allora basta, adesso una sciocchezza. No, ma non c'entra niente, non è che ha detto una sciocchezza perché non vuole. È anche sgradevole. Ma quelle migliaia di persone che faticano e che non trovano lavoro. Va bene, e che vorrebbero essere precari, ma con dignità. Cosa che oggi non sono. Sì, ma va benissimo, ma infatti lui vuole fare in modo, in teoria, poi vediamo nel concreto, vuole fare in modo che chi è, tra virgolette, come dici tu, precario, cioè chi lavora a tempo determinato, abbia sempre maggiori garanzie pagato di welfare, pochissimo. Eccetera. Sì, d'accordo, ho capito, abbia sempre maggiori garanzie, questo vuole fare in teoria, poi vediamo, voleva semplicemente in quel caso esprimere un concetto molto semplice, che fare lo stesso lavoro fisso tutta la vita è una noia mortale, ha fatto una battuta. Ma no, ma non è vero, c'è un sacco di non gente che lo fa. Battute, Cesare da Milano. Tu sei il governo dei tecnici, tu sei l'Oden verde. Cesare da Milano. Cesare che noia i capelli di Monti, dico allora io. Meglio i capelli di Berlusconi. Vada, Cesare. Noia. Buonasera, dottor Cruciani. Sì. Io sono mesi che aspetto che qualcuno dica questa cosa, ma non la sento, quindi probabilmente è un'eresia e magari mi spiegherà perché. Cosa? Ma secondo me i politici guadagnano poco. Cioè, un manager di una grande azienda, di una multinazionale, di un'impresa italiana, e guadagna più di 12.000 euro al mese. Quindi io non voglio dei politici che facciano i politici perché non sono riusciti a entrare nel consiglio di amministrazione di una grande azienda, voglio dei politici che facciano questo lavoro perché gli piace e perché guadagnano. Quindi mi sembra che i nostri politici, se guadagneranno poco, saranno delle seconde scelte, e secondo me uno Stato come l'Italia dovrebbe avere della gente che guadagna e che quindi lo guardi, fa come prima scelta. Non sono pagati poco. Sono pagati tanto, è giusto così, magari togliendo qualche cosa, basta ridurli della metà. Eccoci qui, cari ascoltatori, 20:35, la Zanzara. Andiamo a Treviso, Valerio, poi Luca da Napoli, Camillo da Napoli, Lorenzo da Genova, Roberto da Milano e altri ancora. Vada, Valerio. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Volevo solo spezzare una piccola lancia a favore dell'onorevole Rossi, quando dice che avrebbero dovuto farla tutti, su questo sono d'accordo. Ma no, lui parla della riduzione dei vitalizi a tutti, per carità, ma siamo d'accordo, ma non è quello il punto. Come ti viene in mente di fare causa perché, primo, non perché ti tolgono i soldi, ma perché ti fanno andare in pensione, secondo, 10 anni dopo? È ovvio che certo, scontentano qualcuno. Non entro ho nel fatto un contratto, ma che vuol dire un contratto? No, ma infatti io non entro nel merito del far causa, però quando dice che è stato fatto solo per 7 persone, quindi facendo fondamentalmente del fumo in faccia agli italiani. Guardi, si poteva fare molto meglio. Sì, un sì. Intervento di contenimento dei costi. Ho capito, perché si poteva fare molto meglio, non c'è dubbio. Dopodiché poi quello che si è fatto non è una cosa discriminatoria, cioè lo può essere nei confronti, diciamo, dei più giovani deputati, dopodiché da un certo punto si doveva far partire. Io toccherei anche i cosiddetti diritti acquisiti, fosse per me, per cui non è quello il problema. Infatti io sono assolutamente contro i privilegi, per cui non discuto il discorso della causa, eccetera, quelle sono cose che se la vedrà lui, eccetera. Però sul fatto che è stato fatto un'operazione di fumo, su questo sì, perché effettivamente fare un'operazione di questo tipo solo su 7 persone non è certo. A parte che non è su sette, di quelli che ci sono forse adesso alla Camera, e su tante altre persone che sono già uscite dalla Camera. Grazie. Andiamo a Napoli, Luca. Buonasera, senta, velocemente su Monti volevo dire che non è una questione di monotonia o di noia, ma è un problema di retribuzione, perché noi siamo tra i pochi paesi che hanno un livello di retribuzione per i contratti flessibili più basso rispetto a quello a tempo indeterminato, cosa che invece è diverso negli altri paesi. Vabbè. Viceversa, volevo protestare, perché non posso tollerare che una persona, l'onorevole mi sembra Rossi si chiami, sì, dica che il 50+1% della popolazione possa decidere se le persone bianche o nere, extracomunitarie o semmai meridionali, possono stare o no in un paese, perché questo è eletto democraticamente. E lei l'ha pure ringraziato, Cruciani. No, ma Renzi, che invece rompe sempre scilipoti, è stato zitto. Quindi io non ho capito questo. Non ho capito, lei non ha capito nulla però di quello che ha detto Rossi, scusi, abbia pazienza. Si stava parlando di una cosa inesistente oggettivamente, di un'interrogazione al Parlamento europeo di questo signore, il quale ha scritto che sostanzialmente appoggia le idee indipendentiste del partito Afrikaner in Sudafrica, cosa che non interessa a nessuno di coloro che ci stanno ascoltando. Naturalmente, cioè, se nascesse uno stato in Sudafrica di soli bianchi, siccome lo vogliono, allora questa è una sciocchezza, Cruciani. Ma lo so che è una sciocchezza, Luca. Non si può tollerare che uno dica una cosa del genere. Si fa democraticamente il 51% dei bianchi caccia neri, ma può mai essere una cosa del genere? Lei si deve incazzare quando dicono queste cose, cioè, questa è una trasmissione che va su tutto il territorio nazionale. Non si possono dire delle cose di questo tipo, si facevano durante il ventennio quando c'era il fascismo. Non è una cosa tollerabile. Non esageriamo, non ha detto nulla di così. Ma come no? Non è una cosa così. Quando il 51% decide che in un posto qualsiasi Alessandria, la città di Alessandria, sì, ci possono essere solo i bianchi. Gli ex, no, ma non ha capito ancora, Luca, si sì, fermi, ma come essere possibile una cosa del genere? Ma non è così, parlava del Sudafrica, di quelle, di certe comunità che già sono senza popolazione, diciamo, di colore, ma sono delle enclave di bianchi che se vogliono sovranizzano uno stato loro. Non è una follia totale, dopodiché poi non è un argomento di cui discutere. Grazie Luca, l'abbraccio molto forte. Camillo, sempre da Napoli. Camillo. Sì, buonasera Luciani, buonasera Parenzo. Vada. Io, ritornando a Monti, quello che ha detto secondo me è una stupidaggine inaudita. Cioè quale? Scusi, innanzitutto abbassi la radio perché la chiudo perché altrimenti sentiamo il ritorno. Comunque. La mancanza di una prospettiva di lavoro continuativa allo stesso posto per una vita, secondo me è qualcosa di aberrante. È bello affezionarsi al posto di lavoro. Vabbè, a lei, se le piace così, Camillo, va bene così. Che mi piace così. Io entro in ospedale da giovane aiuto, sì, la mia aspirazione è diventare primario in quell'ospedale. Se entro nel tribunale come usciere, vorrei diventare presidente o direttore del giornale. Vabbè, ma questo non significa niente, ma non è che ha detto che tutti, poi chiunque. Camillo, non è che ha detto che chiunque fa un lavoro, lo stesso lavoro, a parte che lei non mi sta parlando dello stesso lavoro, si tratta di una progressione in carriera all'interno di un ospedale. Certo, se uno fa il medico tutta la vita, su questo non c'è dubbio, non voleva parlare di quello. Abbia pazienza, Camillo, bisogna anche un po'. Insomma, in un ospedale, poi che vado a fare? Magari l'interno in un altro e poi faccio il cardiologo in un altro. Vabbè, ho capito, ma adesso non entri in questi dettagli, non è così. Dovrei essere diretto dove c'è necessità di quella figura professionale. Ma lui ha detto che per avere stimoli, ogni tanto per avere stimoli bisogna anche cambiare, questo voleva dire, e bisogna rendere la società, bisogna rendere la società più aperta e deve essere sempre più possibile poter cambiare, non è una follia, è una cosa normale quella che ha detto, non è né offensiva, ma che momento sbagliato, c'è sempre un momento che impedisce di fare qualcosa, quale momento sbagliato, non c'è miglior momento come questo per fare una riforma epocale, prima cambia. Ma che c'entra il rispetto, ma cosa perché c'entra il rispetto, fino ad oggi, ma perché fa andare ai matti il rispetto, a me il rispetto, ma cosa c'entra il rispetto, sì, perché si parla della vita delle persone, ma cosa c'entra il rispetto, non ma cosa parlare di bubù, cioè, qui parliamo di migliaia di giovani che sono esasperati, sì, che hanno salari, stipendi. Vabbè, ma perché non vai a fare lavoro, la cosa demagogica così. Ma non è demagogia, sì, giovani disperati, ci sono i giovani disperati, vabbè, precari in cerca di lavoro. Abbiamo detto che Cruciani è uno che vuole affamare i giovani. Paolo da Milano, buonasera, signor Paolo, dica. Buonasera. Vada. Io ho 30 anni, lavoro da quando ne ho 18 e da 10 anni che lavoro nella stessa azienda e non ho un contratto a tempo indeterminato. Vabbè. Sì. Avevo la fidanzata, così non riusciamo a fare mutui, matrimoni, sì, non se ne parla. Sì. La mia fidanzata anche lei aveva un lavoro. Matrimoni non credo, perché uno si può sposare, non è che sì, ti. Sì. Però sì, su quali basi, vabbè, comunque nessuno, sì, tutti e due lavoriamo a contratto. Sì. La mia fidanzata si ammala di cancro. Sì. Cosa succede? La prima cosa che fanno, la lasciano a casa. Lei perde il posto. Non ne hanno mai pagato i contributi per ricevere nemmeno una minima pensione. Siamo rimasti con il mio contratto, con, sì, il mio lavoro e basta. Un attimo solo, Rutelli sulla vicenda Lusi. Sentiamo. Una donazione benefica? Certo che sì. Allora, evidente che questa è la base, cioè noi abbiamo curato i dipendenti, non abbiamo mandato a casa nessun lavoratore, seguito il giornale, non abbiamo creato debiti, non abbiamo acquistato immobili, fatto speculazioni, una gestione ultra trasparente. Come è possibile, la mia vera domanda è come è possibile che si sia passato, un mio collega ha detto dottor Jekyll e Mr. Hyde, sì, forse è questo, come è possibile che da una storia di successo come questa si sia passati ad una storia per cui una persona nell'arco di 5 anni, lo stiamo accertando, perché abbiamo messo una delle maggiori società di consulenza internazionale, di revisione internazionale, a rivedere tutti i bilanci per capire come sia successo che siano stati nascosti movimenti per alcuni milioni di euro. Beh, però sono risposte che in realtà dovrebbe dare lui. Ma come è possibile? Lo stiamo accertando. Ma come lo stiamo accertando? Per carità, io la capisco la buona fede di Rutelli, per carità, io sono sicuro che non è responsabile di nessuno stornamento di denaro, però Sta facendo delle domande che dovrebbero essere, come dire, che si dovrebbe fare da solo, cioè non dovrebbe rivolgere a qualcuno. Come è stato possibile? Perché evidentemente tutto quello che lui chiama trasparenza non c'era, c'è poco da fare. C'erano... Ma sai, i bilanci, non era Cuccia che diceva che non aveva mai visto un bilancio vero di un'azienda, e evidentemente vale anche per i bilanci. Sentiamo ancora Rutelli, sentiamo ancora. Il quinto controllo è arrivato al traguardo, è arrivato al bersaglio, e cosa è successo? Io sono stato chiamato una sera, mi sono state chieste delle cose, ma che è successo? A gennaio, no? 16 gennaio. Ho chiamato Lusi e ho detto: cosa è successo? Tu domani mattina vai dalla procura, vai dai magistrati, gli spieghi tutto, e il famoso e giallo di cui anche il ma fatto... Ma Lusi cosa le ha detto quando lei l'ha chiamato? Gli ha detto: ma non lo so, non credo che ci sia niente, sarà una denuncia, una controversia, eccetera, eccetera. Ha detto: no, è qualcosa di molto più serio, riguarda degli immobili, noi come partito non avevamo immobili. Qualcuno ha scritto, anche il giornale di Padellaro, il giallo si è risolto in una notte, perché la sera io sono andato lì, ho telefonato, gli ho detto di andare immediatamente alla procura a riferire, e l'indomani mattina già allora finito, per cui lui ha firmato un verbale assumendo in pieno la responsabilità di essersi preso questi soldi. Antonio Padellaro, ti convince la ricostruzione del senatore Rutelli? Ma è un Rutelli molto teso comunque. La domanda da cui sei partita è la domanda che resta senza risposta, perché il senatore Rutelli ci ha spiegato la sorpresa, lo sconcerto, il dolore. Però abbiamo detto all'inizio che il senatore Rutelli è tuttora presidente della Margherita, ed era presidente della Margherita quando il senatore Lusi presentava le sue carte e le presentava a vari organi. Credo che il presidente della Margherita non potesse non verificare, sia pure così in maniera sulla base di quello che... Beh, insomma, Padellaro vuole dire quello che stavamo dicendo prima noi, no, Parenzo? Cioè, vuole dire che evidentemente il fatto di porsi queste domande da parte di Rutelli è un'autoaccusa ovviamente dal punto di vista politico, soprattutto, non immagino da nessun altro punto di vista. Cioè, quando uno dice perché ha fatto queste cose, beh, perché evidentemente i sistemi di controllo all'interno della ex Margherita, eccetera, erano assolutamente nulli, perché se uno riesce a fare uno storno dal conto corrente del partito al proprio conto corrente, evidentemente non c'è nessun tipo di controllo, e soprattutto a fare poi operazioni e per anni a vivere sulla base di questo. Però eravamo con chi era? Paolo da Milano, chi era? Roberto o Paolo? Paolo da Milano, che richiamiamo subito dopo il traffico. Tre livelli che si occupano del bilancio, è evidente che siamo stati fregati. Come la vuoi mettere? Certo, è un dramma, è una tragedia. Siamo stati ingannati, traditi la nostra fiducia. E so bene che la gente potrà dire: ma non doveva succedere. Sono io il primo che lo dico, e sono io quello che dice stasera, anche se ora sembra tutto chiaro. Se i magistrati vogliono chiedere, ascoltare chiunque, ben venga, vogliono acquisire i documenti, ben venga, noi chiediamo fino all'ultimo centesimo che sia restituito, e poi lo dirò. Io vorrei, l'ho sempre pensato. Aspetti, la interrompo solo un attimo, perché volevo capire una cosa. Stavo annunciando come verranno poi gestiti questi denari, no? Evidentemente, non so, beneficenza o cose di questo tipo. Ma è chiaro che Rutelli in questo momento è in evidente imbarazzo. Ma quale segretario di partito conosce o sa leggere un bilancio? Ha degli uomini di fiducia, questo più che altro. Sì, ma non è funzionato tutto il meccanismo. È chiaro che l'ho detto, siamo stati fregati, però vi siete fregati anche un po'. Secondo te Cesa sa leggere il bilancio dell'UDC? Ma forse Cesa sì, lo sai. Vabbè, allora Paolo da Milano. Hai fatto l'unico esempio sbagliato. Paolo da Milano. Secondo Scilipoti sa leggere il bilancio di Forse sì, lo sai che Scilipoti sì? È un altro esempio sbagliato. Sì, secondo me. È possibile, anche Scilipoti. Sì, secondo me sì. Secondo te Cicchitto sa leggere il bilancio del PDL? No, forse Cicchitto no. È l'unico, è Rutelli che non sa leggere. È chiaro che quel ruolo lì è talmente chiave e importante che questi uomini sono, come dire, padroni assoluti del bilancio. Paolo. Pronto? Allora? No, noi siamo rimasti senza contratto, senza soldi, senza lavoro, ma questa flessibilità, ma cos'è questa flessibilità? In che senso sei rimasto senza soldi, senza contratto? Non vi hanno, ragazza, non vi hanno più rinnovato il contratto? No, io mi sono diviso tra ospedali, lavoro, la mia fidanzata non gli hanno più rinnovato il contratto, cioè i diritti dove sono, noi dobbiamo solo lavorare. Che c'entra l'ospedale? Scusi, che c'entra l'ospedale? Perché no? la fidanzata si è ammalata. Si è ammalata, sì. Si è malato di cancro, cioè si è malato di una malattia non normale, cioè non l'hanno mai più riassunto da nessuna parte. E io con un solo stipendio mi sono dovuto subire tutta sta cosa rischiando di perdere il posto. Cioè, ma questa flessibilità qua cos'è? Sì, cos'è, però, lei che vuole scusi, il mercato del lavoro? Scusi, Paolo, scusi un attimo. Adesso, per carità, ci sono i casi personali che sono drammatici come questo suo, cioè due persone, lei mi sta dicendo, due persone, diciamo tra virgolette precarie, senza un contratto a tempo indeterminato, che hanno dovuto affrontare, oltre alle difficoltà di questa situazione, anche un'altra, un'ulteriore difficoltà, esatto, che però capita a tutti, capita pure, non è che capita solo a quelle col contratto a tempo indeterminato, no, capita, però, diciamo, non è che colpisce solo quelle persone. Non l'hanno rinnovato, non gli hanno neanche pagato i contributi, non guadagnava più niente, non esisteva più. Sì, d'accordo. Ha ragione, quello è un sistema così come era pensato. Sì, però adesso assolutamente scusi, Paolo, altro che la noia. Non c'è dubbio, ma non c'entra. Perché lei è rimasto colpito positivamente o negativamente? Immagino negativamente dalle parole di Monti. Ma io penso che questa riforma, no, a noi ci devono assumere a un certo punto, dopo 10 anni mi devi poter assumere, non è che possiamo continuare a girare. Paolo, guardi, scusi un attimo, dubito che una stessa azienda sarebbe totalmente illegale, l'abbia lasciata, come dire, in ballo per 18 anni, quello che dice lei, è evidente, no, che lei no, lavora da quando ho 18 anni e ne ho 30 e non sono mai stato assunto da nessuna parte. Magari fa un lavoro, magari fa un lavoro che prevede questo tipo di, no, di trattamento, no, o magari ha cercato di farsi, non lo so, i sindacati mi stanno tutelando per quello che possono, garantendomi un tot di mesi di lavoro all'anno, 8 mesi di lavoro su 12 all'anno. Però Paolo, scusi un attimo, lei si rende anche conto che senza una certa tipologia di contratti lei probabilmente non avrebbe mai iniziato a lavorare, anche questo c'è da dire. Ma io una volta, 10 anni fa, avrei iniziato a lavorare, o 20 anni fa, e dopo un po', visto che sono visto bene da tutti, lavoro da sempre, sarei stato probabilmente assunto. Invece non esiste più questa cosa. Loro, finché lo Stato glielo consente, la legge glielo consente, non ti assumono, ti tengono, e quando le cose vanno male, arrivederci, grazie. Bah, se questo succede in parte, molte persone che hanno iniziato a tempo, molte persone, lo dicono i dati, molte persone che hanno iniziato a tempo determinato sono passate poi a tempo indeterminato. L'abbraccio molto forte, andiamo a Napoli, Sergio. Buonasera, dottor Cruz. Vada. Volevo così da magistrato provare a spiegare, sperando che non sembri, diciamo, una visione troppo corporativa. Ma di che cosa? Si sente male, però si sente lontano l'auricolare, cioè. Mi sente, ho l'auricolare, sì. Vada. Riguarda la modifica, diciamo, che è stata proposta sull'emendamento del deputato Pini, a proposito della responsabilità diretta dei magistrati. Provo a spiegare proprio molto sinteticamente. No, però non c'è tempo, Sergio. Vorrei capire che cos'è che non va nella responsabilità civile dei magistrati, posto no, che bisogna organizzarla meglio. Non capisco la levata di scudi contro questo articolo. Se mi dà un attimo per parlare, perché ho capito, però una levata di scudi, però vorrei provare a spiegare. Come no, hanno parlato. Qual è la mia ragione di perplessità? La responsabilità civile del magistrato esiste oggi, il magistrato risponde per dolo o colpa grave, la legge prevede semplicemente una, diciamo, possibilità di agire nei confronti dello Stato, perché sia lo Stato a rivalersi nei confronti del magistrato, cioè evita il contatto diretto tra il magistrato e la parte. Peraltro lo Stato è anche più facile, diciamo così, da, tra virgolette, aggredire da parte delle parti rispetto al magistrato. Ma perché si mette questo filtro? Ci sono alcune ragioni che sono evidenti. L'immutabilità del giudice penale, per esempio. Il giudice penale che scrive la sentenza deve essere a pena di nullità lo stesso che ha partecipato al dibattimento. Se la parte in causa, cioè l'imputato, minaccia, fa causa al giudice, no, basta che gli fa causa, il giudice si deve astenere però per legge. Si deve astenere, perché lo dice l'articolo 36 del codice procedura penale. Sì, ma guardi che bisogna. Si astiene, da quel momento il processo si deve rifare. Ma ho capito, ma e poi dal punto. Però dal punto di vista poi concreto. Le dico soltanto l'ultima cosa, giusto, guardi, perché veramente non sembra una levata di scudi, ma provo a fare capire. Si dice il medico, il medico, esattamente come il giudice, risponde per dolo o colpa grave, e esattamente come con il giudice, il paziente danneggiato dal medico fa causa alla struttura ospedaliera, non direttamente al medico, perché la struttura ospedaliera risponde per estraneità contrattuale, sì, sì. Il medico risponderebbe per estraneità extracontrattuale. Peraltro il medico, quando salva il paziente, non ne deve ammazzare un altro. No, ma ho capito, guardi, quindi, Sergio... Il magistrato per dare ragione a uno deve per forza dare torto a un altro, quindi mentre nel medico una minima percentuale dei casi, quelli che vanno storti praticamente, possono diventare una causa, nel caso del giudice, il giudice è sempre soggetto al ricatto perenne delle parti, perché dovrà sempre per forza scontentarne una. Ma ho capito benissimo, guardi, anch'io ho molte perplessità sul fatto che un singolo cittadino può immediatamente fare causa nei confronti, anche magari in corso di dibattimento o senza una sentenza definitiva, nei confronti del magistrato, però ancora questa cosa va precisata poi nei dettagli. Andiamo a Genova, Lorenzo, buonasera, vada. Buonasera Cruciani, io volevo parlare dello scudo fiscale e della famosa, sì, tassa sullo scudo. Abbiamo 30 fiscale. Secondi, mi faccia una battuta, una, sì, cosa, sennò... Volevo specificare che lo scudo fiscale non hanno fatto solo degli evasori, ma anche delle persone che hanno semplicemente sbagliato la dichiarazione dei redditi. Vabbè, lo sappiamo, non sono tutti evasori quelli, ecco, che hanno fatto lo scudo fiscale. Tassando tutti quelli che hanno fatto lo scudo, si tassano, sì, anche delle persone che hanno evaso 0 euro, però hanno solamente sbagliato a compilare l'RV oppure la sbagliata. Vabbè, però che noia, Lorenzo, lo sappiamo, me ne va nei dettagli di una cosa, mi deve spiegare sta cosa alle 20.55, alle 20.55 e 56 in questo momento, amico mio. Ci sentiamo domani, 18.30. Ciao. Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma dirti questa roba qua, ti piace così? Va bene. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. La Zanzara.